immagino, al buio, però con tutte le apparecchiature accese, capo, lì ti viene il panico, non sai più cosa toccare. Vabbè, Luca, ma vabbè, cioè, mamma mia, come fai tu, ecco, ma... poi avete il microfono come sono, tutto in fila, già... qualcuno dice, ma come hai fatto, come hai fatto, non so, tu hai visto qualche cavo, hai visto qualche filo in mezzo ai piedi, hai visto qualcosa, Giuseppe, le cose bisogna farle bene. Guarda, ti dico, non me l'aspettavo, sapevo, avevo sentito che... e che è riorganizzato bene, però cioè, meglio di uno studio televisivo, cioè, anche entrando il colpo doppio, capi, vedi con la spilza di microfoni messi a L, no? E poi perfetti uno distante dall'altro, cioè è una cosa da paura, poi con quella sedia girevole dai un colpo di piede e sei già nell'altro baracchino. Infatti lo studio che ha fatto Giulio, poi come ti ho detto, anche sull'altro lato ha praticamente quasi fatto la stessa cosa. Lo studio di Giulio era quello, dice appunto L, in modo che tu lavori con la sedia girevole, con le ruote, ti giri dove vuoi, c'hai tutto sempre sotto controllo, capito? È per quello che io ho fatto fare a lui. E poi il lavoro che ha fatto, già l'hai visto come è stato fatto. C'erano le mani d'oro. Adesso avevamo un altro progettino, però purtroppo di nero se non ne ho più. Non ne ho più in questo momento, no. Ho altre cose che sto facendo e quindi ho dei vincoli ben precisi. Però adesso con la giugno metto in mezzo a correre altri 500 euro e la completo, perché non è finita, non è che non finisce qui, come diceva Corrado, capito? Ci va tutta l'altra parte con quello spazio per entrare e girare dietro, per cambiare tutti i cavi, per avere tutto sotto controllo, Giuseppe, dove c'è quell'armadio e il computer, quello va tutto fuori. Il monitor sotto la TV, capito, al muro, la tastiera va nel piano scorrevole sotto la scrivania, che andrà praticamente il piano che farà Giulio, e poi ci vanno tutte le prese attaccate al muro con tutte le prove, microfoni, eccetera eccetera, capito? Giuseppe, un altro investimento l'ho dovuto fare. Ma non serve che non li accendo quei faretti tutti assieme, Giuseppe, sono a 100 watt in uno, eh. Ma non serve quanto scaldano. Sì, già li ho visti, Cla, li ho visti ieri. Però, ti ripeto, già con uno acceso, quello che hai sulla sinistra, mi pare, entrando, già con quello è una figata, perché con tutti accesi forse ti dà anche fastidio la troppa luce, però già con quello, solo con quello acceso, e poi le strumentazioni accese, quella con i led rossi e verdi, quell'altro ha tutto la strumentazione rossa, quell'altro gialla, cioè è una figata, poi tu che sai benissimo anche al buio dove mettere le mani, cazzo, è troppo bello, perché sembra quasi una centrale nucleare. Poi quell'apparecchio che avevi acceso era HF, cazzo, quello è uno spettacolo solo vederlo. Il 950 è tutto digitale, poi c'è dei colori fantastici, c'è il verde, c'è il blu, c'è lo smitter che c'è adesso in rosso, tutto digitale, quindi sono belli. Dai, non mi dici niente, non ti è piaciuto quel bar, insomma? Cate, se mi è piaciuto. Cate, quello è amore a prima vista, cara. Io l'ho fatto tutto uno, è un CB, di vecchia data, che evidentemente non l'avevo mai visto. E tu quando vieni, perché la forma è di un amplificatore HF, no? Tutto in acciaio, hai visto le manopole, con i maneggi davanti, tutto in acciaio, tutto cromato, tutti questi strumenti che se non stai attento non lo vedi dove c'è scritto signal, capito? Così a vista d'occhio. Poi c'è il SWR che sembra proprio l'accordatore di placca, c'è l'accordatore proprio delle valvole, no, e quanti kilowatt ha detto? Io un 3 kilowatt. Non sai perché nel rotto microfono ho messo il tappino, c'è un tappino cromato come i pomilli, e non se ne è accorto. A me fammi bene, come no, lasciami qua, guarda quanto è bello acceso, tutto illuminato, tutto. Ah, oh, che bello, non se ne è abitato, non mi rompere chi. Ho detto, guarda, ti dico un'altra cosa, che questo è un bellissimo amplificatore, però funziona anche la baracchino. Ma allora te dice, vai guardami, di nuovo il rapino, metto il tarletto in due, guarda, lo vedi, oh, te me lo vedi. Oh, certo. Certo, sarebbe stato bello esserci il giorno, eh. Oh, comunque se non ci fai caso, sembra veramente un amplificatore. Sono delle radio americane che mai grandissimo non di posto mi prende. Infatti ci ho visto, c'è un altro Sommer Camp, l'altro ricevitore, quello grande che in terra, se non lo metto. Adesso vediamo, se riusciamo a mettere a correre, non ho problemi con Giulio, perché si dico di iniziare a fare una, me la fa la base, no? Non è quello il problema, però mi dà fastidio, capito? Ma in questo momento non posso investire niente perché ho altri progetti, ho una ristrutturazione in corso e sto vedendo ristrutturazione, un affare, c'ho una mano su di nuovo, ho una salda, un investimento voglio fare, se va bene, una salda è favolosa per me. Allora questa stanza va liberata e sopra diventa una riggia perché sono quasi 70 metri quadri di mansarda abitabile, la parte più bassa è 2 metri, la parte più alta è 4 metri e qualcosa, a Mantovana è molto bella, adesso vediamo se cosa decide il condominio, se acquistarla, vediamo un po', sto trattando Giuseppe. Allora il discorso diventa diverso, non ho più bisogno di cavi, 5 metri di cavi, capito? E lì va fatta come Dio comanda, lì viene Giulio, progetta, lì diventa una sala a tutti gli effetti, una sala però, immaginati una sala che arriva a 60-70 metri quadri. No, diventerebbe una cosa antropologica, chiusa, con porta blindata, tutto accesso da nessuna parte, niente, l'ho detto che non si può entrare, doppi vetri, insomma, progetto c'è, se non avessi accettato il condomino, allora mi trasferisco la sala radio su e questa facciamo un'altra cameretta. Speriamo che me la diamo, perché questo è molto interessante. Sono 50.000 euro. Però, Ocla, andando in porto il progetto, forse sarà, cioè, a parte il fatto che ne verrà fuori sicuramente una centrale nucleare, ma sicuramente sarà da mettere o in giornale o fargli fare qualche ripresa, perché le idee già non ti mancano, ho visto. No, è lì, va tramezzato, un pezzettino, insomma ci sono tre finestre, praticamente tutte a veduta su Sassari, vedo il mare, poi la torre, se vedo tutto, lì devo mettere due pompe di calore per l'inverno, inverno-estate diciamo caldo-freddo, che è la cosa, che quella va fatta subito, per fare il tramezzo e fare il bagno non c'è problema perché c'è la colonna montante e c'è anche l'acqua. Quindi c'è l'acqua in arrivo e l'acqua in uscita, quindi puoi mettere direttamente lo scarico e non hai bisogno di sfasciare assolutamente niente. Quindi ci va un bagnettino, bellino, il progetto l'ho già fatto, ci va un bagnettino bellino, e poi il bagno andiamo a risparmio perché siamo a fare un amico, se l'ascolto. Quindi su quello non c'è problema, sono un lavandino, un water, insomma, un piatto duccio, è giusto per magari quando rientro da loro, me ne salgo su eccetera, aspetta chiudo la porta, perché c'è riunione familiare, rientrata mia figlia quando rientra e ci metto a parlare, però come vedi chiudo la porta. ci vediamo, ti faccio vedere il progetto. È favoloso, ma il pavimento va fatto tutto in. È già tutto pavimentato, è finita, attenzione, c'è luce, c'è tutto. Devo portare la linea telefonica su e basta per la DSL. Però il pavimento lo faccio rivestire praticamente tutto in legno, tipo parquet. Quello lì, le pareti vanno insonorizzate e il resto tramite vanno fatti a casbetto, quindi non c'è molta spesa, tra comprarla e fare questi lavori, diciamo, tratto e tutto una 60.000 euro è finita. Non sono tanti, come sono tanti, perché oddio, stiamo sempre parlando di lavoratori, sai, uno stipendio e compagnia bella. Però allo stesso momento non sono nemmeno tanti, perché poi una volta che ti imbarchi lì nel progetto, poi la cosa viene da sola. No, il progetto è una fesseria, perché non ho problemi per quello, l'ho fatto io, è intanto una ristrutturazione interna e c'è solo la domanda che ho fatto al comune, al condomino, eccetera, e basta. Il problema è che c'è una riunione adesso per vedere se è fattibile acquistarla, capito? Perché sono già proprietario di un quinto. Gli altri condomini della mia scala hanno un altro quinto, capito? Quindi io sono già proprietario, è molto più facile, e quindi niente. È un investimento, è un giro denaro mio, Giuseppe, è un giro di denaro, perché quella di via Pascoli, che era praticamente l'investimento per mia figlia, non interessano, e quindi facciamo qua. Un domani c'ha due appartamenti, perché sono un appartamento e sono trovetto, sono 70 metri quadri, è praticamente un monolocale, 70 metri quadri abitabile, non c'è problema. Quando ci rivediamo ti porto su, te la faccio vedere. C'è un po' di roba mia, di altri, insomma, che appoggiamo lì, eccetera, ma di più c'è sempre roba mia, c'è tutto il salotto che ho cambiato, tutta la roba che ho rifatto, anche questa l'ho tutta ristrutturata, già l'hai vista, quindi non è male, ma ancora ci sono delle cosettine da fare, soprattutto in questa stanza devo ancora fare delle cose. È positivo. Poi guarda, la cosa più bella è che quello è un investimento che è destinato a prendere valore nel tempo, quindi ce ne fossero là investimenti così. Anzi, sono andato bene che ho chiuso con la trattativa, perché altrimenti mi avrebbero ucciso adesso con l'IMU. Invece questa è una cosa interna, capito? Una cosa interna, che l'atto poi non va neanche testato a me, va testato a mia figlia, quindi è un monolocale suo dove io ci posso fare quello che mi piace. Questo è il quanto, Giuseppe. Stiamo lavorando, ecco perché ti ho detto che in questo momento non posso speculare niente, non posso, perché c'è questa cosa là che abbiamo inventato, che abbiamo fatto, e quindi se va in porto, perché non ha detto che vada in porto, c'è sempre qualcuno contrario, perché dice appunto che il suo quinto vale tanto, e quindi niente, però il diritto ha valutato quello, diviso in millesimi, il valore di questa mansarda è quello lì, capito? Attenzione che arriva l'ascensore sino lì, sino all'ultimo piano, perché quello fa parte dell'ultimo piano, quello non abbiamo massaldato, quello che abitavo io prima praticamente, solo che questa è più grande la massalda, perché da questa parte gli appartamenti c'hanno una stanza in più, mentre dall'altra parte dove lui è nella scala G gli appartamenti sono più piccoli, capito? Però l'ascensore su. Figurati, quindi doppia comodità. Ma poi io sono del parere che tu fai di tutto per portartelo in porto, quell'affare. Poi come stavi dicendo tu poco fa, no? Il falegname gioca in casa, il muratore non avrei problemi ad avere amici muratori, e metallisti non penso che tu abbia problemi a conoscerne. Per quanto riguarda la questione dei vetri non penso che tu abbia problemi a conoscerne, quindi diciamo che il grosso secondo me è superare l'ostacolo per aggiudicartela. Poi per quanto riguarda i lavori, tanto sei giocando in casa. Forse qualcuno vuole entrare, sì, per quello non ho problemi, ma ripeto, fare un tramezzo lì a Gasbeton, mettere un telaio di una porta per il bagno e basta, mi resta, lo sfrutto tutto. Lo sfrutto tutto anche, se voglio, facendo un sobbalco, attenzione, perché si può anche sobbalcare, solo per fare un sobbalco con le travi a vita, tutto il legno mi costa un capitale, il legno costa troppo, ho fatto mio cognato che da San Francesco ha comprato due mansarde, le ha unite, praticamente sono 200 metri quadri di mansarda, ma devi vedere che cosa ha fatto, ha speso solo di tetto, tutto a vita, in ciliegio, è una cosa spaventosa, mi pare ha speso sui 90.000 euro, ma è dell'ordinaria, vi la butti, non ci vedo, non aggiudina. Chi è che vuole entrare? Buonasera, buonasera. Oi, motopompa, buonasera. Compagnia di Giuseppe Tornaros. Lo sentiros. Vabbè, Giuseppe, come va? Ciao Antonè, ciao, ben sentito. Beh, parlando di soldi e di idee con Claudio, cercando di buttare giù un piccolo progettino, ma ho visto che le idee ce le ha belle chiare. Eccomi, così, il problema è che è un casino adesso fare lavori, un casino che c'è. Non si può fare proprio niente, già non riusciamo a vendere la campagna, regola di due, il garage, pochi soldi ci sono, pochi. Io immaginati o Giuseppe, il garage che c'è via Pascoli, mi pare che sia più di 50 metri quadri, se dovessi venderlo quello lì, mi assumono tutti i lavori a gratis, però no, non vogliono perché c'è un sacco di roba anche lì, capito? Poi c'avevo la moto, eccetera, ci sono anche gli immobili della casa di via Pascoli, vabbè. Avanti. Allora Claudio, buonasera a te Pomponio e a chi c'è in questo canale. Buonasera a tutti. Ciao, un saluto, l'hai sentito. Ciao, vai Giuseppe. Oi, ciao Pomponi, buonasera e ben sentito anche tu. Avanti per chi vuoi tu. Ma buonasera Giuseppe, buonasera. Allora, che si dice qua? Anto, stavo parlando di quanto siamo poveri. Meglio non pensarci, cazzo, se no ti verrà malinconia. E beh, sta. E beh, bombolo, c'è la mia figlia giù in macchina, cioè, stavate controllando la fiorino. Ahi, la mia zembo mani tutto. Non sono la propria figlia. L'assicurazione che si paga. Invece l'ha già fatto, che devono dare assolutamente la macchina. Mi avevano detto me la davano la settimana scorsa, invece no, a Cagliari non c'è. E allora stanno appunto girando la frittata per prenderne una a noleggio fino a quando non è pronta la mia, capite? Aspetto, quando mi dicono porti una macchina in carrozzeria e me ne danno un'altra, io non ho problemi. Per il momento mi tengo quella, c'è il cammino, me l'ha tenuta. Avanti, Antonio Pomponio, discutendo per accorciare i cavi, cosa ne dici tu? Saluto che comunque mi hai sentito. Ho sempre buonasera, i grandi di chiamo molti se non sbaglio. Non sento nessuno. Amelia. Ciao Gianni, saluto che mi hai sentito comunque. Anzi, ci vuole gente che compri. Purtroppo il mercato è fermo, non l'hai visto adesso, quel casino che c'è dell'IMU e cose del genere, non si esce più. Tutte queste tasse nessuno compra neanche più case. Adesso c'è un bel casino per quelli che costruiscono appartamenti, perché quando bisogna di là non riescono neanche a vendere, alla fine di cosa fa di quello che ha costruito con gli appartamenti a Sassari 2, che non è riuscito mai a venderli. Io ti posso dire che sono stato fortunato, nel senso che mia figlia c'ha un amico di Gref, appunto, che ha un'agenzia immobiliare, la Tecnocasa lì, quella che c'è in via Pascoli. Via Pascoli, non è neanche via Pascoli, è via dove c'è il fornitore di via D'Annunzio. E niente, quindi dal momento in cui gli ho dato l'ok per la vendita, ci è passato molto poco, e quindi con la ristrutturazione che è stata fatta in quella casa, invece è tutto nuovo, dai pavimenti alle porte, bagno, finestre, tutto, è stato fatto tutto nuovo completamente. È stato aggiunto la metà di quello che io ho speso per ristrutturarla, diciamo che ne basta la pena dare. E quindi con l'investimento che farò, spero di riuscirci quassù, me ne avanzano anche, quindi nonostante ci sia da fare dei lavori che stavo spiegando a Giuseppe, il progettino è già fatto, rimane tutto qua in casa, capito? Praticamente hai il secondo e il nono, e così accorciamo un po' i cavi, no? Non c'è problema, faccio una cosa molto molto bella. Vediamo che vada in porto, non ci sono problemi, il problema è che vada in porto, perché ci sono alcuni condomini favorevoli, altri no, ma pure a Brucia Rive, recuperano un po' di soldi, visto che è una massata di vita imbarrati e basta, però a me mi serve, e quindi la proposta l'ho fatta, adesso vediamo cosa. Che tra l'altro, come diceva Giuseppe Antonio, sono già proprietario anch'io di un quinto, quindi non è difficile acquistarla, tutto lì. Vai Giuseppe. Ia, ma ritornando al discorso, cioè non fa una grinza, non fa una grinza, anche perché giustamente con la truscia che c'è, offrendogli la parte che gli spetta al resto dei condomini, è una manna che sicuramente per loro gli piove dal cielo, micla. Tu stai pensando, quando c'è più vero, perché il netto va diviso, tutta la mia quota va divisa agli altri 9, quindi non ho capito. Sono netto proprio collato, dovrebbero essere 55.000 euro, una cosa del genere. 55.000 euro quanto che ha fatto il perito, perciò 55.000 euro diviso 9, che aspetta, avrei accettato subito la truscia che c'è in questo periodo. Poi mi, Ocla, io ho sempre quell'euro 50 in tasca che mi sta ballando. Quando è a disposizione? €1,50 certo. Poi pare faccio 2 euro per un caffè, tu me lo mangiano, ma sei convinto che ritira mi incarta a me. No, quella è una cosa che non sto manco gestendo io, Giuseppe, perché se l'avessi gestita io stai tranquillo che questa stanza tu ieri non ci saresti entrato, perché la radio dovevi passare sopra la radio. Quindi è meglio che lo gestisca mia moglie con mia figlia quell'investimento. Io ho solo proposto e anzi è stato un entusiasmo grande perché la proposta è stata accettata alla grande. Ti ripeto, qua all'interno di casa, poi all'esterno bisogna vedere se va in porto. Speriamo di sì, altrimenti pazienza, ne faremo, sto bene lo stesso, non è quello il problema. Però un investimento lo faccio, non è che me li tengo lì a mangiarseli la banca e massi la biglielucci. Tanto guarda, non me ne frega assolutamente niente. Quando, se ti ripeto, non va bene questo, vuol dire ne troveremo un'altra soluzione. Ne troveremo un'altra soluzione. In ogni caso qualcosa la devo fare per forza, perché altrimenti poi prendi, Giuseppe, alla fine la prendi in questi occhi, non è più nuda. E si conferma. Va bene, là. Facciamo girare sta rotellina, dai, bombolino. Ciao, ma praticamente ti vorresti una seconda cosa su, così è il discorso? Sì, Anto, dove praticamente ero prima, sopra, all'ultimo piano, ci sono le mansarde. C'è la mansarda che è abitabile, sono 70 e più metri quadri di abitabilità, perché non è una mansarda dove cammini gobbo, capito? È proprio una mansarda abitabile, perché la parte più bassa è 2 metri, 1,80 mi sembra. La parte più alta centrale è 4 metri, perciò no, non ci sono problemi. E quindi stavo spiegando a Giuseppe che ho fatto la proposta per poterla acquistare e portarmi a farmi la sala radio su, quindi con 5 metri, 6 metri di carattere di antenne, una cosa fatta matodontica, perché userò queste due basi, però andranno finite con tutto il resto. C'è un progettino che già ti faccio vedere anche a te, sto aspettando che mi diano risposta, che vado tutto in porto, tutto qua, poi per il resto è noia, dice questo. Antonio, ma poco fa dice che hai registrato un break, io non l'ho sentito e non sono ancora l'antenna, non so chi se l'è fatta entrare, se ha parlato, io non sento niente. Gianica Montiera, che ho fatto entrare poco fa, non so se c'è ancora. Comunque là, guarda, se tutte le salità è massata, io vado a cercare a coso, ma salgo su, faccio scambio con la villetta che c'ha lui, ma salgo al centro ecologico, lì è abbastanza alto, c'è un appartamento di 120 metri quadri, c'è addirittura anche il tavolo per giocare a, no, a bocce, come si chiama, a fanculo, anche mi viene in mente il nome, c'è stato verde, c'è, dove si gioca a fanculo, non mi viene in mente il nome adesso. E Kong? E che? Avanti. Grazie a Giuseppe, ben sentito, non mi sono provato. Va bene, state senz'altro, va. Io sono toscano, saluto tutti gli amici di Sassari, vero? Sì. Con Zingaro! Cazzo lo fai, cazzo! Devi sfuggi, cazzo, cosa hai costruito? Già si può dire una volta, boh. Visto, stiamo molto male, stiamo fatto subito scontavato, così impari. Non l'hai visto che c'era dentro? No, io c'ero fuori, non ero dentro, se fosse stato dentro che avrei pulsato. Ma quando mai? Ma sei un po' caccioni, sì. Ciao Claudio, ciao Giuseppe, da questa parte. E' un po' aspetta un attimo, aspetta. Sì, no, non è fatto a me l'altro giorno. Sono qui a Parigi, sono qui a Parigi, invece in macchina. Per quello l'ha convinto che fosse in direttiva. Scusate che l'ha fatto. Oh, c'è una gente, però è fatta grave, se no succede un fatto attacchi. Se devi crepare a me, ma è un'altra parte che crepalo subito, così non parla più. Però stai attento, perché se va nell'altro cutiacca hai finito di giocare. Giuseppe è tornato, a te il microfono, fai per Antonio Grotte, ho sentito anche Fabrizio, Ricchio di Porco. Vai tu per chi vuoi. Buonasera Antonio Grotte, ben ascoltato. Cava cava. Ciao Antonio, ben sentito, ben ritrovato, Giuseppe da questa parte. Naturalmente una stretta di paletta anche a te, Antonio. E niente, dai, ti faccio venire avanti subito il bombolo per i saluti. Che santo, buonasera, lo sempre sentito. E Roger, ciao Giuseppe, tutto ricambiato al 100, ciao Bombolo, ben sentito anche a Claudio e a Crepa Crepa che è lì, cosa crepi, ma cosa crepi, uia, Fabri, riprendi. Io mi sto ascoltando, io mi ascolto ogni tanto, quando sento qualcuno che entra per il buffone, ma ci posso fare, c'è quello lì, poverino, adesso, cacchio, perché cacchio, ci casca e tu ne approfitti, no? Quello che lo voglio far sentire importante, capito? Buongiorno, mi hai passato sotto casa. No, ma tu? Sì, dimmi. Ho detto dove sono passato sotto casa. Ma non tu, no, Antonio. Antonio Grotte? Lui già passa sempre sotto casa degli altri. Ma qualche giorno mi metto le mie 25 a manetta. Con l'altro paracchino, cazzo. Qua sei passato sotto casa. Che Fabrizio non sia fagiani. Cos'è che ti manca? È importante che non sia fagiani. Qua che fischia. Cazzo, se uno, se io prendo l'MP più 5, mi metto qua molto sotto casa. Cazzo, ti fischia l'apparecchio. Capito, se vi date una chiamata Antonello, Antonio, forse capisco a Bombolino. Cos'hai detto Bombolino? Mi sono accorto di una cosa un giorno, che praticamente io l'ho provato, non è che stavo, l'ho provato così, diciamo, le mie più 5 attaccato con il jackpot e ce l'avevo a manetta, però sai cazzo che ci stiamo a fare. Beh, quello è sicuramente il modulatore che fa rientro di RF, ma non è niente in particolare, c'è più Benito, aveva lo stesso problema e ha invertito quello che stavo dicendo Antonio Domenica, ha invertito la massa da un'altra parte, il negativo praticamente della piastra del microfono l'ha messa dall'altra parte e non fischia più. Ora, può essere una coincidenza, può essere qualcosa, però il lavoro è quello, niente in particolare. Avanti, Antonio, cosa c'è con Antonio? Aspetta, non mi hai capito, Cla. Chi passa sotto casa mia, tipo come ha fatto Antonio e cosa, fischia il baracchino. Non è che fischio io, no, il bruciaretto. Ah, fischia il baracchino? Ma tu devi stare attento a tenere l'ordine, perché lui quando è in giro in macchina c'è un chilo batte me. Magari. No, vabbè, chiunque, me ne sono accorto una volta che stavamo facendo delle prove, stavamo facendo, cazzo, come andavo a tremare la portante io, gli otto cazzo li bruciava asciugando. Antonio Grotte, rispondi a Bombolino, perché fai queste cose? Lui no, non lui, Cla, io, se mi metto da casa io a trasmettere e tu mi passi sotto casa, io ho le mie 5 attaccate o cosa, come ti passi sotto casa, cazzo, ti brucia l'apparecchio, come ti dà, uiii, hai capito, come passi tu sotto casa, quello ti piglio in pieno. No, ho capito, ho capito. José, riprendi, travai. Baza e Trumbaza. Buonasera Fabrizio, cordialità Giuseppe da questa parte. 9 più 40 qui, Radio Super 5. Ok, mi sentite anche a te Giuseppe, mi sentito. E tutte le cose, io mi sto ascoltando e che sono entrato perché ho sentito che a volte c'è qualcuno un po' distratto, frequenta. E quindi magari è stato aiutato, ma c'è uno che fa il furbone, che sta sempre facendo gli scherzi e c'è qualcuno che ci casca sempre. A Sassari, come diciamo Fabri, se caggi botti e tutto. Botti e tutto. No, è cosa, è pomponi che può fare anni. Che lo proprio. Fabri, guarda sopra, che sono le nuvole di color rosso, addirittura questo. Strano, eh. Di solito sono grigie cose nere. Due ce ne sono belle rosse rosse e queste piene di sabbia. Sento uguali, sono due nuvolosi belli rossi di colore, figurati. Gli altri tutti quanti qui in giro, praticamente deve essere pieno di sabbia, la zona di sotto. Qual è la zona di sotto? E qui sono, la prima volta la verità. Non lo riesci a sottile un altro. Ascolta, Pompo, perché non prendi un pezzo di ferro adesso, vai fuori e metti la mano in alto? No, fa quello più mattino della Grand Prix. Quando passi qui ti faccio il cavo e fai come quel film, la danza la macchina tua, almeno ti cambi la macchina. Quello che dice, Ocla, quello che dice tutto il resto è noia, lo sai chi è? Ma solo si chi è. No, scusa. Siccome te l'ho sentito dire un paio di volte, però quello lì è Franco Califano, tutto il resto è noia. È vero, Califano, non volevo dire, no, ma solo c'è Califano, e io dico sempre così, capito? Tutto è, poi vabbè, tutto il resto è noia, cosa? Per dire che tutto il resto non si vede nulla, mia tu. Intanto, se una cosa pure non è fattibile, rimane solo la noia di averla, di averla fatta. Quella canzone descrive il rapporto che si hanno con le donne quando inizi, sei tutto quanto felicità, tutto per i primi mesi, che ti vesti bene, che ti fai la barba, ci sempre sbarbato, tutto figo, eh? Dopo tre anni tutto il resto è noia alla fine, capito? Per guardare a te, è la pura verità, perché anch'io sono un po' un mandrone, sinceramente parlando, perché i primi periodi, sai, quando eri sposato, che adesso dopo 27 anni me ne fotti più nuda, qualche giorno la barbetta me la lascio sempre, quindi c'erano prima, no, te la facevo, nel più ragazzino, tutti i giorni, me l'ho sbarbato, eccetera, eccetera. E vabbè, hai pienamente ragione. E noi sese? Io e astronauti. Ah, sei a casa o sei in macchina? Ma ragazzi, vado a casa, perché come sto arrivando? Sei fortissimo, qua c'è un barracchino, questo Galaxy funziona, sì, a fondo schiena. Perché numero uno contro i Proxel, io propongo l'M93 della ZG, che è una cagata lo stesso, però in abbinata è migliore. 95. 93, 95 c'è il Roger Beat. Io. Mi hanno tessendo praticamente in abbinata il microfono della macchina col baracchino della via degli astronauti. Oh, adesso ho comprato un altro, quindi perché ho cambiato completamente lo spinotto, capito? L'abbinamento, favoloso, almeno non sentiamo quel fischio e tutto quel bordello. Io mi saluto in macchina perché sai che in macchina te l'ho sempre detto, ottimo carica, ci sentiamo dopo con tutti gli altri, dai. Positivo, vai, e buona carica a tutti, ciao Claudio, ciao Antonio, e niente, rimetto subito il mic per i saluti a Fabrizio. Ti saluto anche io, dai, se pensa che se ne voglia dopo siamo qua. Giappa, usa la domanda, so, mai l'hai montata? Oi, Giuseppe. Oh, dimmi a tutto. Giappa, usa la. Sì, positivo, adesso sì, sto facendo girare un pochino lui e così lo faccio scaldare. Che è successo? Oh, va bene, va bene. Ricordati la potenza che devi mettere. Sì, sì, sì, questo già va per conto suo. Andò, mannaggia. Ma anche gli altri se lo devo ricordare, se non mi guardate in alta dimmi. Positivo. Ma ogni tanto non ti andare gli strumenti, non si sa mai. Sì, ma non mi frega più, oramai ho messo anche i colori a posto e occhi aperti. Gamma, può succedere, dai. E lui, ma non pensi che arrivi? Ma guarda tu, io, se è vero quello che vi hanno detto, sempre che sia vero, speriamo presto. Ragazza, ma se è vero, non sei giustissimo una cosa per un'altra. Evidentemente lui non buscava proprio i frutti, magari questo è uno di quelli, hai capito? Di quelli proprio addetti e l'ha fatto. Speriamo bene, dai. Positivo, dai, speriamo bene. Riprendite l'Antonello. Andiamo. Ma oggi ti sentivo io, tu non sentivi a noi, Giuseppe. E dove a tu? Già a Milano ero, vuol portarti da qui. Magari non ti sentivo a tu. Allora, insomma. Io già ti sentivo a te. Gioppa. Bene, fa questa baracchina, però... Di lusso è a tu, già va bene. Poi guarda, so da oggi che arrivo anche via Milano, quindi stiamo facendo progressi. Non è così, Fabri? Sì, sta arrivando bene. Da mattina lo sentivo bene io, solo che sono messo in lì, ho capito perché. Adesso, poi dopo... Servo un pochettino di consegne, allora ti stavo solo ascoltando, sta parlando. Positivo. Oh, ragazzi, non so voi, ma queste scariche le sentite? Ma per me è tutto pulito qua. No, io scariche non ne ho qua. Pompo, ti stavo chiamando. Dietro, un attimo, devo caricare il malon grasse. Cosa hai fatto? Malon grasse. Sono per caricare il malon grasse. Che cazzo è? A pesciare me. Ah, il cazzo non l'aveva compreso, non l'aveva esente. Ma me ne c'è un ghiaccio con un grasse. E cos'è, roba di magna? Il malon grasse, marron. Il marrone si chiama cosa francese. Allora, io. E beh, Giuseppe, come va? Ma cerchiamo di galleggiare. Antone, cerchiamo di galleggiare, mannaggia. E tu, mannaggia, già siamo un giorno senza sentirci. Ma netto sarà buono. Adesso c'è un periodo buono, la verità mi sta lamentando di studio, c'è un periodo fortunato per il momento. E, dopodiché adesso ci sarà da togliere le mezze pietre della campagna che non ne va di piedi di Venerla in più c'è un garage che non è molto frutta, perché io macchina non ho, quindi c'è pagare il garage insieme all'appartamento non mi sta per bene, e quindi faccio fuori anche quello, perché non faccio proprio niente, ci sono due macchine, figurati, anche mobilia dentro, per dire, è grande, c'è l'acqua, c'è addirittura anche la luce. Ah, figurati, ma è di dove abiti tu, Antonio? Eh sì, insieme all'appartamento di proprietario, in pratica, lo faccio pure perché non ne faccio niente. E non c'è macchina, non c'è moto, perché l'ho eliminata, non vale neanche più la pena per le moto, ogni volta che uscivo in moto stare sempre con la testa, cioè per dire, a parcheggiare due minuti mi stare con gli occhi fuori e il culo dentro, per dire. Allora mi sono stufato adesso per andare così, perché me la prendo se la tocca in quel posto. Così anche la campagna. La campagna l'ha avuto già le. Ogni volta scendevamo lì, a spendere i soldi con gli espugnatori, a pulirla, eccetera, eccetera, dopo pioveva era peggio di prima. E quindi poi, a parte se non la pulisci si riprende, che è un casino. Beh, certo, certo, sì, va bene Fabri, hai ragione Antonio, hai ragione anche perché cioè, pagare anche questo cavolo d'IMU per un garage che non sfrutti è proprio buttarli via i soldi, invece in questa maniera se riesci a fartelo fuori, guarda, hai fatto un terno all'otto. Beh, che sì. Buonasera signori circolari. Buonasera dottore, ben sentito, e anche Fabrizio, avanti Fabrizio, dottore di ginecologia dell'apparecchio che c'è in mano di Sandro. Fabrizio mi sa che ha fatto bianco il corrido. Buonasera Sandro, mi ascolti? Tu ti stai chiamando Antonio, bombolo. Ma purtroppo io... Antonio Momo non lo ascolto, sono un po' di QRM e non riesco a tirarlo fuori. Attenzione Sandro, se riesci a tirare fuori Giuseppe che ti fa chiamata. K di positivo per Roger, ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato dalla città del grande Caraggio. K di positivo Sandro, forte e chiasso da questa parte, eh? Dai, dai. Campa, anche tu arrivi benino, dai, dai, ti fai sentire in queste coordinate. Va bene, va bene. Ma c'era Fabrizio, Fabrizio? Oh, Fabrizio ha chiesto del bianco due minuti fa, quindi presumo che si sia allontanato. Comunque Bombolino poco fa, quando ti ha rilanciato, ti ha salutato e super cordializzato. Giuseppe. Sì, dimmi Bombolino. Già a volte, dite che l'altra volta Sandro l'ho visto, l'ho suonato. Sandro, Bombolino dice che l'altro giorno ti ha visto e ti ha anche suonato in macchina. Cambio. Addirittura, addirittura. Bombolì, mi dovrai spostare, mi dispiace perché così avremmo avuto l'occasione di potersi anche conoscere in verticale. Ok, niente, che dirti? Alla prossima volta mettiti in mezzo così ti vedo meglio. Prendilo in pieno, prendilo in pieno. Io ti cotta come bombolì in mano, io. Mamma mia. Eri sotto un pomponio, ero in fretta perché dovevo consegnare, però sono passato da lì, stavo dietro da via Milano, si è aperto. Stavamo dietro da via Milano e quello suonava bianco perché è lì dietro. Claudio. Dimmi Giuseppe. Altro, ma una gentilezza. Anche due, dimmi. La prossima volta, prima di entrare, bussa, cazzo mi sono tronato, tutta canta la radio e no. No, ho finito di mangiare, era accesa e non vi ho perso un attimo, era tutto sotto controllo. E ho sentito Sandro e gli ho detto, ma è prima. preparo. Cazzo, se sono tornato tutto in office, mettere Cantovelli, ci avrei a vedere se riesco a scrollarlo un attimo. Tu mi dici che mi hai trovato una dritta? Sono questo Galaxy di Urano, scelta ne più tre. È che è maledetto questo microfono, che non è tanto segnale perché sto andando con 15 volte, quindi è la radio che rimuove un bel. E beh, tigre contro tigre, ci dà di rubare radio. Eia, va bene, va bene, va bene, dai, ok. Comunque, comunque vi do la bellissima notizia che a Porto Torres, la via pedonale, fra un po' non esisterà più, sarà stesso il traffico. La cosa più vergognosa, sai che cos'è Sandro? Che prima hanno fatto fallire quei quattro negozi che c'erano, adesso la fanno riapprendere. Non so, purtroppo cosa succede? Succede che inventano. Prima fare un piano, prima valutare la situazione. E chi ne ha più ne metta, capito? Ma cioè, adesso dimmi tu, a scelto il traffico, stessa parcheggiare e niente, che è povero. Guarda, non ho parole perché guarda, io anche se non sono di Porto Torres, quel pezzoni l'ho sempre contestato, a parte il fatto che è il porto di fronte, e per i turisti quelle cosolie era come un tappo, tu non puoi dire a una persona che deve entrare al porto, che poi una persona che la città non la conosce di pergolarsi con le vie viuzze per uscire da Porto Torres, e la gente che sbarca, oh, ce ne sono pochi di errori lì, oh Sandro. Lo so Giuseppe, lo so, purtroppo è tutto un controsenso, è tutto un immesso insieme, a parte che si da dire che adesso le navi stanno attraccando, diciamo dove stanno attraccando, quindi non entrano neanche i turisti, che gli arrivi non entrano neanche a Porto Torres, deviano e escono fuori direttamente. Cioè, ci siamo messi insieme, guarda, allucinante. Scusate, lo riprendo io un secondo il mic per rispondere a Sandro, se non mi dimentico. Sai cosa ti dico io, Sandro? Che il sindaco che c'è e quelli precedenti volevano scuzzolati tutti quanti, sai perché? Tu non puoi permetterti di far passare una nave di turisti alla periferia di Porto Torres. A parte il fatto che tu quando sbarcano i turisti gli devi mettere le frecce in terra per invitarli a entrare nella città di Porto Torres per potersi fermare, fare una colazione, comprarsi un qualcosa, portare dentro la città un pochino di turismo, farla vivere di nuovo la gente di Porto Torres. Lo so Giuseppe, purtroppo certo il discorso non fa una piega, ma quanto sembra, diciamo, questo non sussiste. Purtroppo questo non sussiste, diciamo è tutto al contrario, quando dovrebbe proprio invitare, per dire obbligare, diciamo, il turista a fermarsi, a prendersi il giornale, a far colazione, cioè e quant'altro. Invece questo attualmente non sussiste, capito? Ma comunque, purtroppo chi decide, e noi dobbiamo consentire. Va bene, dai. Hai visto quante contate il sindaco Giuseppe? Ha cercato la zona blu a Sapri, che tutti usano il tram e pagano. Allora, vedete quante sono contenti. Non pensarete, so. A certo, come se andava dei primi coepi. Hai detto a Franca e mezzi a vedere. La mattina ho visto un'intervista alla TP, sta incassando un bel soldi con i tram. Lasciali fare, guarda, sto vedendo che ti ne chiudono. Guarda, forse l'unica cosa che si poteva fare, il centro storico chiuso per le auto, era solamente per fare quelle giornate dove si poteva fare la notte bianca e basta. poi se c'è un po' di chiudere al traffico, una zona dove ci sono i corsi, mettici un po', c'è un po' di traffico, uno non può andare lì a piedi tra i tassi di 5-6 buste e poi facere fino a ci sono i parchi di vado scherzata. Allora, per la zona 7DL i residenti devono chiedere il permesso, devono chiedere. Noi ce l'abbiamo il permesso per poter scaricare. Ma guarda, è uno schifo. Ma la moto può entrare, le moto possono entrare. Ma guarda, è veramente uno schifo, stanno agevolando di più Predagnetta a lavorare sempre di più, perché la gente se non c'ha la macchina sotto il culo, la gente non ci va a fare la spesa, giustamente. Quindi cosa fai? Tu con andare a Predagnetta, in Chive, ti fanno la spesa, comprano tutto, trovano tutto e poi ognuno se ne va a casa. È così, adesso la tendenza è così. Cosa avevano sperato di fare? Prima che erano i posti male, adesso sono ancora più messi male con queste cose qua. Ma che mi facciano il piacere, dai. Guarda, secondo me cosa si poteva fare? Buttare giù quell'albergo e fare un bel centro commerciale grande, ma grande solo di commercianti di centro storico. E basta, ogni piano c'era una bottega, per dire, i parcheggi sopra e i negozi sotto, non è qualche cosa che avrebbe guadagnato il centro storico, secondo la testa mia, non lo so, avete avuto tutto, parcheggi, l'ingresso da una parte o dall'altra, si è andato bene così, invece troppo casino. Adesso siamo abituati così, siamo abituati. Ognuno giustamente vuole la sua macchina, vuole mettere la macchina, prima di tutto al sicuro, che non ci sia il vigile che ti rompe le palle, prima cosa. Ma lì si fa la spesa, si compra questo, si compra quest'altro. La gente vuole quello, vuole, non è che i suoi esistenti di negozi che sono in Kiwi, no, cioè, se tu chiudi la via, la gente non entra nessuno, perché non entra nessuno? Perché non, la gente si dica, se io devo entrare in Kiwi, ma devi dare contravvenzione, ma non sei neanche, ma la prenda niente, entro, compro tutto, e me ne vado con mano pieno e tutto quanto e trovo tutto quello che mi pare mi piace. La gente ormai la ragiona così, ma anche per mangiare adesso la tendenza fanno quello, vanno lì, mangiano, si cerca la gastronomia, si compra la roba pronta, mangiano e tutto va. Vabbè, per città del capo le cose sono cambiate adesso, la verità, tutti i primi tempi. Adesso un sacco di gente l'ha presa come testa castello, va lì, si fa un giro, compra un pacco di uova, chi si compra un pacco di pane, chi compra per dire 5-6 birre, si fa un giro solo per quello, non per altro, ormai città del capo è morta. Non serve più a niente, ormai sono nati questi negozi come lo Spin, Lira, la gente sta cominciando a capire che bisogna cambiare la roba, bisogna andare dove la roba costa di meno, hai capito? Anche se di bottola si esterna, non ci sono solo due batterie, hai capito? Ogni sabato, tutto fai, venerdì e sabato è sempre pieno. Capito, ci dà mercato, vado solamente che faccio un giro, perché l'hanno scambiato come tazza castello ormai. Tu trovi tutti lì, tu. C'è un qualcuno che trovi tutti lì. Si fanno un giro per dire si bevono una birra, ma non più di tanto, si mangiano un gelato, oppure si piglia quel pollo già cotto, qualcosa da Paolino per dire, però è. I tempi sono cambiati ormai, città mercato non è più niente, non ho perso proprio di molto, te lo dico io. Un attimo, malissimo. Sì, però... però c'è questo da dire, che in base al... diciamo, in base al... al costo proprio la qualità, Sì, sì, ma quella cosa che ho con te, sa. Il problema è che la qualità non deve essere più di nessuno. La cosa che c'è, ormai tutti vanno così. Ma anche quando è pieno lo spi, la mattina, il venerdì, il sabato e il sabato fanno la spesa a tutti. Non sono un dito, dovete vedere la gente che c'è, ormai sono tutti abituati così, risparmiano per andare. Ma solamente quello che serve utile durante la settimana, dal lunedì al giovedì, poi il sabato si fa la spesa rossa per tutta la settimana. Ma non sai, quanta gente ho visto che andava a città al mercato per comprare scarpe di marca, che adesso va lì, lì a permessi a fare la spesa. Più di uno l'ho visto che c'ha un negozio. I tempi sono cambiati, sono cambiati parecchi i tempi ormai, la gente ha capito che deve andare a risparmiare e basta, vai dove costa di meno la cosa. Vabbè, fate la qualità diversa, tu te lo senti di me, quindi. No, è vero neanche niente, non è vero nulla. Ma il discorso è questo, cioè si spende di meno, no. La qualità è quella che è, quindi devi andare sul risparmio. Il risparmio ti porta diciamo, a prendere quello che trovi di risparmiato e quindi cerchi di andare avanti così alla meglio, capito? Purtroppo è la situazione che ti porta, diciamo, a questo discorso qua di risparmiare. E ti devi adeguare, e ti devi, nello stesso tempo ti devi accontentare, anche se, per dire, invece di prendere un pacco di pasta a barilla, prendi un pacco di pasta trulla lira che la paghi per dire 30, 40 centesimi e ti di avanti, capito? È tutto lì. Vabbè dai, signori. Io vi lascio che vado a far carica se coincide più tardi, dai. Non è vero, ma non è vero niente. Avanti, Pompo, dai, state per il saluto. Io a casa ci sentiamo. Comunque ancora quella così che c'è così. Ma lo sai per i pacchi che danno alle persone bisognose? La pasta che pasta è, mica non è pasta cattiva lì, è pasta buona, è pasta addirittura cellino, figurati tu, è roba loro, non è che sia pasta che sembra buona, non è che sia sembra cattiva, eppure la danno, sono un zucchero anche, purtroppo è così. Non è che ti diamo la pasta bella, perché la pasta bella non sempre costa 70-80 centesimi, adesso non mi ricordo. Invece di altri tipi di pasta costano 30, 25, dipende. Ma è bello lo stesso, ormai ognuno si adatta o altro. Le cose sono così, sono cambiati i tempi, bisogna stringere la cinghia. E più sono avanti, peggio ancora. Quando la dice, ha detto Monti che non aveva più peggio, tu finora più quando... ci costerà fra poco. Vedrai che fra poco perché prende la bombola gli metteranno qualche tassa senz'altro. Perché non è possibile. E lui ha fatto la SARS, prima abbiamo detto di no, adesso abbiamo detto di sì, adesso fanno gli scavi e cercano se c'è petrolio in Sardegna. Se c'è petrolio in Sardegna, tutti pare che la benzina qui diminuisca, qui aumenta. Fanno l'effetto contrario, capito? Comunque per quella roba di che prende lo spin, adesso poi passa Giuseppe e passo. Se volevo dire una cosa, che per esempio il latte è fatto da Arborea e la pasta è fatta da un'altra azienda, certo che magari producono solo, cioè il marchio producono, allora il marchio, allora quei marchi si prende il latte. Come cazzo si chiama l'altro? Tutti quei marchi di Eurospin Ma adesso non mi ricordo tutti quanti, ma tutti quei marchi che vedi di Eurospin sono i marchi di Eurospin quelle, però la pasta e tutti i prodotti viene prodotta da un'azienda, viene prodotta dalle aziende di tutta Europa, vengono prodotte queste cose, sono aziende valide, cosa ti posso dire? Ci sono tante aziende qua in Italia che producono roba buonissima, cioè non è carente come si dice. Il marchio è di tutti quei marchi sono di Eurospin, però la roba è, cioè, è di altre aziende che fa pasta di alta qualità, una roba buonissima. Avanti Giuseppe. Sì, grazie. Guarda, io solo due parole voglio dire, e spero che qualcuno di voi mi dia ragione, perché perlomeno io la vedo così. Oramai, come dice giustamente Antonello, siamo arrivati al 2 e io sono convinto che la gente, la marca, non la gente, la stragrande maggioranza della gente, la marca non la guarda più. La stragrande maggioranza della gente sta cercando di arrivare a fine mese. Ma poi viene prodotto dalle stesse aziende, cosa ti posso dire, l'acqua blu, chi la produce? Prodotta da San Leonardo, da Tunturgio, come si diciamo, ed è si sa benissimo che l'acqua San Leonardo è buonissima, ma non buona, non buonissima. Lavorano così sotto quei marchini, ci fanno pagare la roba di meno, però è la stessa roba che puoi comprare a un negozio normale. Allora, per dire il prodotto è quello, Scappa, facciamo riprendere a Claudio. Guarda, tu che ci sono stato il marchettone di acqua, mi sono preso accorto. Se non più la più cara, addirittura, figura di tu. E fa pensare bene che dovrebbe costarci di meno, invece ci costa di più. E come il cemento quando vai a comprarlo, l'altro cemento ti costa di più. Vai a, per dire, da piccolo, posso pagarlo per dire 50 centesimi, al costo lo pago 25, una bella differenza per dire, e viene da fuori. Poi c'è il famoso cemento greco, se lo fanno rubare sempre i cementi, che lui in pratica ci piace di tutto e basta, ma sono questioni di commercio, capito? Sono sempre le stesse cose, ormai la gente fa bene abituarsi a pagare di meno, tu vedrai che le grandi marche, ecco, devo dire, fa poco diminuiranno i prezzi, te lo dico io, perché sono contento a diminuire i prezzi, hai capito? Siccome c'erano tutti gli io piglio quello, io piglio quell'altro, perché la grande marca, eccetera, eccetera. E tu adesso con tutto che siamo, caro mio, vedrà che tu, vedendo la barilla, potresti essere a tutto centesimi al chilo, sarà 25, te lo dico io, se no fallisce. E ci manda tutti quanti in casa imperatore, te lo dico io. Ma l'avete chiamato? Perché tanto loro producono lo stesso, non sono scemi, no, loro producono lo stesso, perché prendo l'acqua, come ti ho detto poco fa, l'acqua afla, bottiglia la latte, bottiglia altri latti, cioè altri marchi di latte, tutto quanto, quindi a loro il prodotto lo prendono così com'è, non gliene frega nulla. Guadagnano sempre, ci guadagnano, perché da una maniera o dall'altra ci stanno sempre guadagnando, perché tanto l'azienda è sempre quella, hai capito? È per quello che molte aziende non gliene frega niente, se lo vuoi così, no, perché tanto il latte ci guadagna lo stesso, la pasta ci guadagna lo stesso, perché l'immedima azienda che magari lo fa con un marchio, come si dice, con un marchio di cosa, hai capito? Di marca proprio, e quindi non mi ha fregato niente. parlano una cosa, per dire, la coop la notte coop, la pompa sottobancano e la vende di meno, e vende lo stesso latte, in pratica. Tu vorrei che faranno così, come fanno tutti, come i televisori, come fanno le lavatrici, eccetera, eccetera, per poter guadagnare. Tanto proprio si è mercato, tutto lì. Avanti, qua. Giuseppe, che ho il telefono. Il problema c'è così. Alla fin fine molta gente sta andando a comprare sottomarche che poi sembrano abbastanza buone, perché il prodotto è sempre quello, solo che va gestito in una certa maniera per far sì che ci sia un guadagno superiore. E comunque la crisi c'è, basta, si fa sentire da tutte le parti, che sia nell'alimentare, nel settore farmaceutico, che sia dove volete. La crisi è totale e basta. Ora Giuseppe, cosa ne dici tu? Sì, ma io come dicevo poco fa, è che ormai è arrivato un tempo, ma io ho compreso oramai il tempo è arrivato di non guardare più, come dici giustamente tu, le marche, il coso. Oramai è arrivato l'obiettivo di arrivare a fine mese, cioè la lotta è per arrivare a fine mese. E poi un'ultima cosa, io che non tralascio, perché io dai tempi che ha cominciato a perdere colpi, non so se vi ricordate le cementerie di Scala di Gioca, io a suo tempo avevo fatto un pronostico e avevo detto, secondo me questo è l'inizio della fine. Ma lì c'è una cosa che io non ho mai capito, perché se è un controsenso, se la cimenteria non andava, non produceva, che è assolutamente negativo, perché mi ricordo negli anni passati c'erano un sacco di dipendenti e venivano tutte le parti a comprare il cemento. A cosa serve che adesso il cemento lo portano da fuori e la distribuzione va fatta lì? A cosa serve? Ocla, noi già lo sappiamo come funzionano i giochi di potere, no? Quindi quello è uno di quelli. Ma è vergognoso, perché non capisco. O la chiudi definitivamente, o non è che fai rimuovere il cemento da fuori, fai praticamente da gestore, quindi magazzini il prodotto e poi lo rivendi, per mantenere che cosa in piedi? Una struttura che ne sta scendendo a pezzi. Ma io non riesco a condividere queste cose. Comunque sarà un business di quelli a livello sicuramente burocratico, tipo politico, perché diversamente non si spiega la cosa. E Sandro non c'è più, è andato via, chi è rimasto qua? Allora, mi sa che Sandro è andato a caricare, e Momolino e Antonello sono qua. Ok, vai Antonio Bombolo, vai. Ciao, la questione è questa, che purtroppo le aziende sono fatte furbe, si sono fatte. Sono fatte furbe, adesso stanno producendo così, stanno producendo. Poi questi tipo Eurospin, qualche un'altra cosa, il discorso di poco fa pure, che dicevo, si sono fatti furbe, oramai vanno dalla azienda, dalla coapola, vanno dalla cellulare, fammi adesso 1000 cazzo di acqua e cosa, via, vanno dall'altro, vanno dall'altra azienda e producono un'altra cosa, la pasta viene prodotta magari da un'azienda magari anche conosciuta e cosa, e così che abbassano i costi per quello. E quindi all'azienda magari quando ti vendono il prodotto di marca non gliene fregano niente, quant'è lo paghi e non gliene importa assolutamente niente, non gliene importa. Perché? Perché tanto l'intruito ce l'ha già da altre cose. Però io ripeto, per me è un controsenso stare a tenere in piedi una struttura che, ripeto, ribadisco, sta scendendo a pezzi, perché sta caendo a pezzi. Io, secondo me, lì avrei messo in piedi qualche altra cosa, non so quale, che cosa si possa utilizzare di quei macchinari, di che, per stoccare altra roba, altro materiale, ma penso che sia così. Quindi non ha senso che noi andiamo a comprare o facciamo arrivare qua in Sardegna il prodotto e poi lo rivendiamo avendo una produzione come il cementificio che a livello europeo, perché nei suoi anni quel cementificio è stato a livello europeo, quindi c'era un'esportazione anche a livello mondiale, e non capisco qual è il nesso della cosa. Quindi, come ha detto Giuseppe, è che c'è qualcosa all'interno di politica che non sta funzionando, perché è un peccato avere una struttura del genere e tenerla in piedi solo per avere un guardiano che controlla, che non si che non arrivi la gente col cannello e inizia a tagliare ferro per poterselo vendere, capito? È veramente una cosa vergognosa. È vergognosa. Riprendi, Antonè. Sì. C'è i materiali da Puglia ancora, non lo so, comunque sia. Adesso fanno solo anche a Cagliari e basta. E so che era molto grande, anzi, meglio di Cagliari pure, stava l'avrebbe voluto chiudere, no, non è bello diverso, anche perché qui c'è il porto subito, per poter esportare fuori. Lui, i sapere me lo esportavano in Africa e cose del genere, quindi ha voglia di cemento da poter vendere, poi bisogna vedere come fanno le cose. Poi si è pensato questo cemento greco che poi tutto l'ha fatta perché lo vendevano loro stessi, quindi lo pagavano di meno, li vendevano, ci guadagnavano, capito? Non lo so, tutto è solo politica, purtroppo da quando c'è questa globalizzazione ha rovinato un sacco di gente, la roba arriva fuori come un pesce, si senti qualcosa. Quanto più il pesce che c'è stato me lo piano là fuori e te lo vedo di nuovo a te. Se va presto no, invece non lo è. Perché è messo in mezzo al ghiaccio, poi te lo presento magari di una settimana dopo, bello fresco. Quando lo cucino parte si batte come che si batte. Ormai il pesce fresco non viene più in Sardegna, anche quello abbiamo preso. Come tutte le cose. Ormai è cambiato tutto. Sì, anche questa cosa del pesce, esportazione e controesportazione avrei messo dei limiti e dei blocchi. Tu appartieni al campanale Porto Torres, è perfetto, le tue miglia di pesca sono queste, tu vai a pescare, il pescato va portato a Porto Torres e venduto a Porto Torres. Tu cosa fai? Appartieni a Circomare la Maddalena, perfetto, allora il tuo pescato va portato qui, le tue miglia di pesca sono queste. Ma come mai noi nel nostro golfo possiamo avere i pontesi che vengono a pescare qua nel periodo delle sardine? Perché noi non ce l'abbiamo nell'altro lampare. Non ce ne abbiamo, secondo voi noi non ce abbiamo i pescherecci che possono pescare le sardine e far girare il denaro tra Porto Torres e Sassari Anghero. Abbiamo necessità che vengano i pontesi a prenderci il nostro pescato e a fare i soldi e portarli a Ponza, così dobbiamo fare. E tu tutto un giro di denaro, perché io non avrei permesso una cosa del genere. Oh no, Giuseppe. Beh, io sono d'accordo con te, anche perché se di pescherecci, grazie a Dio, ne abbiamo. Poi basta pensare che cosa abbiamo a Porto Torres. Tu pensa solo a Falco, che cosa tutto li può tirare. Già solo quello, senza contare poi tutto il resto della flotta che abbiamo. E parlo solo di Porto Torres, senza contare anche lo, e, diciamo, e tutte le altre postazioni. Quindi non credo che ci insegni nessuno come pescarla. E purtroppo sono convinto che anche lì qualcuno si sia avvenuto. È sempre una questione politica, Giuseppe, è sempre una questione politica, perché se tu pensi che a Porto Torres la maggior parte delle aziende ittiche hanno fatto una fortuna, vedi Fara, vedi Revieccio, vedi anche Rum, che ha iniziato molto dopo, ma dico, cioè, la flotta c'è, i pescherecci ci sono, allora perché tu non imponi come compamare, quindi come capitaneria, tramite la regione, chiaramente, imponi un sistema di pesca dove il pescato va girato tra Porto Torres e Sassari e Alghero. Punto e basta. Perché dico Alghero? Perché anche Alghero c'ha i suoi pescherecci, cioè c'ha il suo pescato, perché si può invertire. Quelli di Porto Torres vanno ad Alghero, quelli di Alghero vengono a Porto Torres. Non che fai venire i ponzesi a pescare qua, o tante volte io come Porto Torres ho visto pescherecci napoletani, pescherecci di Viareggio, pescherecci di... Che cosa ci fanno qua queste persone? Perché tu dai l'autorizzazione a questi pescherecci a venire a pescare nel Golfo della Cinara, perché? Non ce li abbiamo i pescherecci che pescano a traccico quando devono fare quel tipo di pesca. Abbiamo i gozzi e tante persone che vivono dal pescato dei gozzi, che vanno a fare la giornata perché non ce la fanno con lo stipendio. Quindi anche quello è un investimento. Io mi compro una barchetta e vado a pescare, il pescato lo vendo e racimolo un altro po' di quattrini. Perché tu mi devi far venire le barche da fuori a prendere il mio pescato? Perché? Non capisco, capito? O come uno dei più grandi cantieri navali che c'era a Porto Torres l'hanno chiuso, perché? Perché la politica è sbagliata, perché dice l'inquinamento di cosa? L'inquinamento delle vernici, ma cosa si intende? Quel cantiere navale, io ero ragazzino quando Polese costruiva le barche lì alla Marinella, capito? Ero un ragazzino, avevo un muccio nel naso, non c'è mai stato nessun inquinamento. L'inquinamento è nato dal sistema sbagliato di scarico che c'è dell'Eniche, non di quelli che fanno le barche, di quelli che lavorano onestamente. Poi l'hanno fatto trasferire da un'altra parte e ha fatto la Vammi, capito? Quindi è il sistema sbagliato, Giuseppe, è proprio il sistema sbagliato. Non è che è perché un'azienda non ce la fa andare avanti, è il sistema che non ti fa andare avanti. Parole sante a ritornare indietro. Guarda, non lo so, magari quegli errori li avrebbero fatti di nuovo, perché anch'io quel cantiere l'ho conosciuto, ha sfamato tante famiglie, ma tante veramente, però pian piano ci siamo visti. Anche se poi presumo che davanti a tutto quello sfacello la gente fosse impotente, perché non penso che nessuno si avrebbe fatto portare via un'attività anche di una certa importanza, così da sotto i piedi, io Claudio. Quindi presumo che siano stati giustamente i classici giochi di potere che hanno fatto, ti hanno sfrattato con una scusa qualsiasi. Ti hanno dato i due soldi e dove hanno buttato fuori a te se l'hanno rivenduto per rivenduto. infatti benedettate, questo ne sono più che sicuro. E la stessa cosa è fatto per la questione delle cementerie di Scala di Gioca. Lì c'è stato qualche ministro che aveva bisogno di rifarsi di nuovo il conto in banca, doveva cambiarsi lo yacht, doveva farsi le sue belle cose, e in 448 quelli lo fanno come quando tu stai spegnendo l'interruttore del tuo baracchino. Se a quelli non gli va più, prendono e spegnono. Ma infatti è così, è così, è così, perché come quell'azienda ce ne sono state tante altre, ce ne sono state tante altre, quindi dico, se l'indotto non funziona, non è la colpa delle aziende che hanno un fatturato minimo, o che si sono creati problemi con le banche, o che hanno avuto dei bilanci in passivo, no, è il sistema sbagliato, il sistema proprio di condurre l'industria, capito? È proprio il sistema sbagliato, perché se tu dai l'autorizzazione ad uno ad aprire vicino al mare un'officina o un'autocarrozzeria, come ce ne sono state tantissime lì nella prima della zona industriale, io le ho conosciute, capito? Non si è mai verificato nessun inquinamento, non si è mai verificato nessun problema. Dopo 30 anni tu ti accorgi che le aziende che ci sono lì devono spostarsi e andare alla zona industriale, capito? La zona industriale, perché il business deve nascere lì, deve essere un business dove sia il comune che l'ASI deve avere un guadagno, capito? È normale, no? Che tu mi fai trasferire in un posto dove io devo pagare il doppio dei quattrini come struttura e come tutto. Quindi perché parli di inquinamento, perché parli di cose che non vanno bene? È proprio completamente tutto sbagliato il sistema che hanno fatto al porto. Non si può fare un porto che era uno dei primi porti d'Europa, se non il primo. Si può fare un ingresso sbagliato dopo tutti i miliardi che sono stati spesi per l'ampliamento del porto, avere un porto in quelle condizioni? Ma stiamo veramente scherzando? Cioè, quel porto era la fine del mondo, andava bene così, c'era da ristrutturare la parte vecchia della torre. Non che tu mi hai fatto una darsena, quella non è una darsena per navi, quella non è una darsena neanche per pescherecci, sono 10 metri di fondo. Ma cosa erano convinti di fare o di trovare loro? Hanno speso miliardi, centinaia di miliardi per avere niente, per avere il posto per mettere quello scempio della nave che va alla Ginara, che è 3 mesi ferma perché non ci sono soldi per farla camminare, e le navi nostre di linea con un porto industriale, un porto passeggeri, abbiamo l'attracco alla zona industriale Agi, che se uno non ha macchina deve andare a prendere la nave, deve spendere 10 euro per il taxi per farti accompagnare per poter imbarcare. Ma stiamo scherzando davvero? Eia, ma tu lo sai lì, al porto di Porto Torres, che navi dovevano entrare? Tipo quella che c'è scesa di fronte all'isola del Giglio, per svegliarci un pochino di torrore che abbiamo qua nel nord di Sardegna. Guarda dove c'è la regione a Cagliari, che navi stanno entrando in porto qua. Ma Cagliari è la capitale della Sardegna, Giuseppe, capito? Cagliari non ha investito miliardi come ha investito il comune di Porto Torres con i fondi europei per poter fare l'ampliamento del porto, dando, attenzione, dando, sottolineo, dando ad un'impresa che ha fallito 4 volte, che ha lasciato il porto 1 anno e mezzo incustodito con tutte le banchine aperte, con tutte le strutture al Pascolo Bravo, dopo che gli hanno fatto l'ingiunzione per poter terminare i lavori, altrimenti non prendeva manco una lira, allora ha terminato tutto. Nel terminare per finire tutto nelle banchine, la darcela che era adibita sicuramente all'ingresso delle navi di linea e anche si diceva a qualche nave da crociera, si sono accorti che la nave di linea lì non può attraccare perché c'è un fondale che passa da 50 metri, quindi da 50 metri ingresso del porto, ad un fondale di 10 metri. Qualsiasi nave farebbe la fine del Concordia, capito? Precisa identica. Sarebbe rimasta lì, non sarebbe più uscita, capito? Quindi dopo che tu hai investito miliardi ti accorgi che non hai le attrezzature, le capacità, la voglia, la volontà e l'idina soprattutto per fare un fondale decente perché le navi possano arrivare alla banchina che tu hai progettato, che tu hai fatto. Questa è una vergogna totale, perché tra l'altro è importante che tutti noi sappiamo che i soldi sono i nostri, capito? I fondi europei sono soldi nostri, soldi che tolgono a noi dalla busta paga, dalle tasse, dalla mappa che mi rivaria. Eia, già è così, noia, e ora noi, allora, guarda, io sono sicuro che più ci arrabattiamo e peggio sarà, perché tanto continueranno a fare quello che hanno sempre fatto. Ma, bene, dai, con questo vi saluto, io adesso stacco, e niente, dai, vi ringrazio innanzitutto per questo bellissimo QSO di stasera, ne avevo anche voglia, un bel QSO tranquillo, rilassante e corretto soprattutto, dai, corretto, belle persone, bell'ambiente, grazie, ripeto, grazie perché ogni tanto ci vuole. Quindi ciao Claudio, ciao Antonello, ciao Bombolino, eventuali ascoltoni non sono entrati sulle 10 e niente, dai, se coincide più tardi non credo di rientrare perché sono già, siamo prossimi alle 10 e niente, se coincide un po' più ci risentiamo domani. Io ti saluto, grazie a te per l'intervento e le due chiacchiere che ti hai fatto assieme a noi, te l'ho detto, quando vuoi, non ci sono problemi, noi siamo sempre qua, è un piacere fare due chiacchiere. Ti saluto, buon 144, se ne voglia più tardi, altrimenti a domani. Microfono per Bombo e poi vai per Antonello Alessio, Ciao Giuse, ce la riserviamo domani o alle prossimine, o quando è. Buonanotte e un bacio alla bimba. Ciao, buonanotte, avanti, buon po'. Notte a pompa. Lui quando ascolta gli si asciuga la lingua e allora ogni tanto va a bagnarsi il becco, capito? Ma no, è secondo me roba bionda, non gli piace a lui. Buonanotte Giuseppe, va. Cappa, dai, ciao a tutti di nuovo, ciao. Ma è un bacio a Veronica, vabbè, da parte mia. Grazie, ciao. Ciao Giuseppe, ciao, a presto. E quindi questi guy. Ma dove stavi consegnando stasera, qua vicino a casa? Cappa, le gambe del 5 stavo consegnando. Vabbè, se no lo posso dire, non lo so, ma va. Ah, positivo. Ma ho visto il tuo segnalone a fondo scala di tubù. E poi ho sentito la voce di Pierpaolo e quindi ho capito che eravate qua sotto, vai. Ma stavo consegnando nella via a fianco, poi dopo sono passato lì sotto. Già lo sai che è lì proprio dietro casa tua. Poi sono passato lì sotto e mi sono fermato. Ehi, è positivo. Va bene che va bene, non c'è problema. Infatti te l'ho detto, mi segnale. stava usando con l'antenna quella sua, la cosa, come si dice, la radio? No, negativo, abbiamo la magnetica con l'antenna corto, tutto corto, però senti, va bene, è vero? Io glielo dico, non la radio mondiale per portatile, funziona egregiamente, molto, ma molto bene, veramente. C'è un processore antico, c'era, perché c'è un processore anche, l'ECP della modulazione che è entrata e che non c'è. Praticamente l'entrata è il segnale deboli se già funziona con l'amplificatore, poi l'uscita funziona la modulazione, funziona, hai capito? Non lo conosco quel portatile, sinceramente, non lo conosco, però ti posso dire che c'è un'ottima moderazione, va veramente molto molto bene, capito? Va veramente molto molto bene, e vabbè, comunque, se tu ci avete la, come si dice, l'antenna sua, allora già va ancora meglio. Ma no, c'è l'antenna sua, c'è un attacco un po' particolare, cioè praticamente qua nell'ospedale, un attacco che si attacca qua, c'è la piscina sotto, cioè, ma non la piscina, no, una specie di corso che si entra, si incassa e da lì parte la cigari e poi c'è sempre lì, però se non cosa c'è l'antenna per attaccare l'antenna stessa, ma è bello, eh. Allora il discorso si chiama compander, si chiama della modulazione, capito? È molto carino, tu mi dici dove vuoi andare, io ci vado, ma quando sei tu canale va. È stata progettata per funzionare così, col portatile, già va bene. Antonella Alessia, ci si, cambio. Alessio, poi c'è anche lo smitterino, certo, c'è il digitale, quando moduli le prese si muovono così, c'è il coso, può andare da un millibus, Capito. E allora insomma una cosa fatta bene, non è una cosa così fatta alla cacchio. È tecnologico, è molto. Guarda, basta guardare sul computer, si chiama Intec H520, si chiama. Quando hai tempo, questo guarda, me lo guardi, ma quando ci sono, quando ci troviamo, te lo faccio vedere, insomma. È un portatile il più avanzato che abbia mai visto, è molto avanzato come tecnologia, ce l'abbiamo noi e ce l'ha anche Giuseppe Tornado, non ce l'ha nessun altro a Sassari, penso che non ce l'abbia nessun altro. Io non l'ho mai visto come portatile, capito? Conosco quello che c'è, mi pare, adesso non ricordo, della Intec, così, e basta, più portatile, non è che ne abbia avuto molti. perdere lì, è scoppiato la guardia, a perderci tempo, non so, e a perderci tempo e basta, non so che dirti. Io l'avrei già messo da parte, per conto mio pure, non so. Non ci metto tutta la buona volontà, la passione, però quando non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, capite? Niente. Comunque, mi hanno restituito quello 440, ti ricordi? Quello che avevi iniziato tu, mi hanno restituito, intanto non mi ha tolto piedi, non mi hanno tolto piedi, capito? Mi hanno restituito, non ha voluto neanche il soldo indietro, figurati, mi ha tolto, devi dire, arrangia di fare quello che vuoi. L'ho acceso, questo problema di quello lo accendi. Signori, ha display tutto, 8 puntini, 8. Quindi, quando metti da parte quello, ti divertirei con questo, perché questo si può mettere a posto, questo sì, questo non è cagato da nessuno, praticamente. Qua, se ci vuole la scheda CPU, se ci vuole roba sul PLL, si mette, ciccia, si comprano i pezzi, e lo mettiamo a posto, ma abbiamo fatto a questo Fabri, a 140. Noi lì c'era come sulla, insomma, ancora c'era sugli oscillatori, qualcosa del genere, con sui si tiene a pezzi del cambio, oppure vediamo di giocare. adesso quando c'è la Monti, Fabrizio Lago e si mette a giocare. Vediamo se riusciamo a farla funzionare, perché è un peccato. Non è così messa bene bene, comunque già è presentabile. Si può usare, là. Ok. Antonello Alessio, a Bisveglia o no? Ecco. Ecco il globo avanti. No, di Ruggero sono rientrato, Sono rientrato anche se era in radioascolto, che stavo aggiustando una cosa, però non ci sono riuscito. Guarda, ho Fabri. Cosa c'è? Ascolta, guarda che c'ho questa cosa, non ci sono riuscito perché non c'ho le cose adatte, sicuramente tu ci riesci. C'ho questa grattugia per il formaggio, si è incastrata da una crosta come stavamo utilizzando stamattina, guarda se mi puoi dare una mano, te la posso portare domani mattina. Quella lì. No, a casa, scusa, dai, sì, direi una cosa, adesso che c'è gli strumenti puoi dare una girata a questa, alla rotore, glielo controlli un attimino. Ma non so se sia l'altezza della cosa, perché questa è una girmi. Girmi, facciamo tutto. Quindi voglio metterla senza problemi. un'antenna, io l'avevo comprata nuova, non l'ho piazzata via Pascoli perché c'avevo la mantella, altrimenti avrei piazzato quella. Però un'ottima antenna quella lì. Credo che puoi mettere quella, no? Quella che abbiamo visto in via Roccaferre, quella lì puoi mettere anche. A parole, quella che è la prima antenna che ho avuto, che è ottima, otto radiali, fra l'altro sono otto radiali che si avvitano, non hanno quel modo becero che ha tirato fuori la mantova, per ottima antenna, però dico si è persa in quella cagata per attaccare i radiali sotto, con la specie di plattorello con quelle vittine, bastano due cornacchie e ce le ha in terra i radiali. Oggi lì proprio si avvitano la caccia al piede dell'antenna. E ottima, l'unica cosa lo stelo centrale è un po' fine, ma ripeto, resiste abbastanza bene. Pensare che sia molto fine è apparente, perché fine sì, come però è molto grosso come alluminio. Ma Fabrizio credo che gliel'abbia spezzato, o no? Forse era quando era caduta Fabrizio. Però hai visto la manta, ma è completamente diversa, proprio molto più spesso. Sì, non era caduta, l'avevo ricostruita. Però adesso stai trasmettendo con quella? Sì, con quella di sempre. Scusate un attimino, riprendete, rimango 5 minuti in QRX, se riprendo subito. Ma Anto, arrivo a buttare. Attivo, ma te l'ho detto Anto, se la vuoi te la regalo, non c'è problema. Se vuoi, non ho problemi, vengo me la prendo. Io te l'avevo detto da tempo, se un'altra ringa ce l'avevo anche, e che non l'hai voluta, perché se hai problemi di rimetterla, da dove metterla, non era quello, per quello. Beh, se la recuperiamo, non vuoi. A per oggi. Dire anche per un altro posto, mi può servire. Certo. No, che mi può attaccare a capo, che mi possa servire in un altro posto. Ah beh, se ti serve quel posto dove ho visto io, è fenomenale lì, eh. Ma la vostra maniera mia da voi, la sono bene. Adesso, e chi vi cadrie già a voce? Lì si regge, non c'è problema. Va bene. Ok. E quindi Fabri, ma è che si Fabri? Stavo volteando. Ma non sei in turno quindi? No, ho delle riunioni, quindi io ci sono andato no, mi sono libero. Ah, ho capito. Perché ti sento sempre la sera, quindi si sente che non stai entrando in turno, va? No, in questi giorni niente, nine, proprio non sto lavorando. Che ci vuole un po' di riposo. No, a me mi hanno dato un sostituto ieri, che finalmente la patente, è patentato, quindi vado a prenderlo in casa e poi passo all'altra parte, guida lui, mi porta lui e finalmente ne posso staccare anch'io. Infatti stiamo già programmando, perché con l'altro collega non avevo la patente, praticamente mi assentavo solo lunedì e martedì e basta, perché c'era un sostituto ogni giorno, questo invece è la patente, quindi lo sto mettendo in condizione di poter andare da solo. Oggi l'ho lasciato da solo, sono rimasto a Marte se per dei lavori, ho visto che ha fatto tutto il giro senza problemi, e allora adesso lasciamo passare questa tempesta di tempo brutto, dopodiché mi prendo un po' di ferie anche io, una settimana, due settimane, ne ho ancora dall'anno scorso, quindi non ci sono problemi. E così mi dedico a terminare qualche lavoretto a casa, a fare anche qualche altro lavoretto sulle antenne, dare una mano anche ad Antonio, montiamo questa antenna, facciamo un lavoro ad hoc, così è fatto per sempre, non ce ne dovrei da dire. Non riesco a capire cosa, ma c'è qualche problema. AGC con l'antenna da lì, con l'antenna buona da lì, va bene Antonio, voglio dire grande. Adesso mi ero mette con l'antenna e si prova l'altra, ma devi sollevare però. Con la... come le c'è tu? Sì, la deve sollevare. Non lo so quella va sollevata, ecco perché non l'ho messa in Pasqua. Perché non avevo molto coraggio e quindi ho paura che sollevandola andasse, però anch'io ce l'ho quella più uguale alla tua 24 radiale, la bobina quella in coso, in vetro, la ricoperta in vetro poi. E la dovrò piantare, per vetro, perché mi serve un'altra antenna in 10 metri, una verticale per 10 metri solo lì. Niente di particolare, e basta, in modo che l'850 lo uso in 10 metri, quando lo voglio usare non ho bisogno di commutare niente, mentre le antenne dirette, una sul 140 e una sul senza commutatore, e una sul 850. Se voglio provare 27 posso anche provare 27 con quella, però sarà proprio esplicitamente usato in 10 metri, non ha molto senso usare quella radio 27 va bene questo, eh? Il studio Cattolino, che ce n'è anche per i maiali, guarda, non so può farla più con me, io da quando l'ho piantata, e scusa una volta che mi è caduta, e ho rifatto tutto lo tiro centrale, adesso è bello robusto, l'ho messo con una scheda molto più grande, a voglia di cenare, grazie a Dio, è ancora lì, e speriamo che rimanga, perché per me smontarla vuol dire smontare il tuo antenne, buttare giù quel palo, cioè ho collegati tutti i tiranti, tutti i contrappesi dell'altra antenna, no? Esatto, fare quello che ho già visto. È un disastro. No, la mia è libera, quindi cioè, se mettere il palo va bene così. C'ha due tirantini, giusto come misura e basta. Lascio stare lì dove non è affittibile della 90, ma già va bene. Devo tirare su invece di polo. Perché quello va tirato su, l'aria molto bene, ma potrebbe fare molto di più. Infatti devo dedicarmi a quello lì, cambiare i pali, ho già comprato le caducole con nylon e lo tiro su, perché quello solo con le caducole va su, così a mano ti impara la matta dove va, lungo pesante. 50 metri di coso di antenna, però due pesanti, come fai? Ti tira una parte, ti si abbassa dall'altra, non ci vogliono due persone, una parte nell'altra, è contemporanea, si tirano su, si tira piano piano con la caducola, quando lo va su in punta si legano i cavi e lì è a posto, non c'è problema. Bombo! Mettete una camera da letto con la lingua, che esci meglio, col capo a massa attaccato alla vette. Ma pure dice, ma la canta è manna. Mi sembra che ha mangiato il 2,50. Inizia, se vengo io con Fabrizio ti facciamo una piatta lì dove c'è il ferro da tendere lì. Ho visto una piastra lì, una staffettina e lei rimane lì ferma lì. Vero Fabri, la facciamo da balcone. E tante cose si possono fare. Vabbè, e farò la maggiorità di sopra che magari mi ricorda. Cosa ti deve dire? Manco gli arrivo, cosa ti deve dire? Va. Manco il pelo quello che ce l'aveva già Paolo Silvestro, così montata nel poggiolo, però lì sopra mi faceva niente. Se piatti quella lì allora cambia la cosa, cambia. Fa una piattrina Fabrizio messa col cavallotto rispondo direttamente a quel ferrauco che c'hai lì, poi non vado qui centenna, ma anche un bello di gocca che lo fa, esce molto bene così, anche perché è libera, quindi non hai problemi. Corretto, tante cose si possono fare con chiesa Fabrizio, però bisogna farle. Ma se io stavo al secondo piano ero già troppo tranquillo, ma ci stavi a poter fare le felicità da ancora, non si è riuscito, ma purtroppo adesso vediamo più là di prendere, di informarci e a vedere quante che si cazzo in piattaforme, dove c'è quella gru, cioè non la gru, no. Qual è queste cose di quei centesi che fanno su, dopo i centesi, che cosa? Avete canto e vediamo un po', va? Tu, perdomi, quando c'ero io, perché intanto volevo prendere io le lotte dei lavori, quando c'ero io, se sei pronto, metti il telefono, scendo, con l'autista, e ci mettiamo l'antenna sopra il tetto, manco se ne accorgono. Ma bisogna dire la fama, bisogna dirlo, a vedere cosa si può fare, io non lo so, bisogna dirlo a lui. No, la mia domanda è questa, se lì c'era l'antenna, no? Che tra l'altro lo scempio, capito? Perché l'avrei tolta quell'antenna da lì, no? Non mi ha fatto casino per toglierla, capite? Perché mi fa cadere la pizzica. Quindi se c'era prima, perché non ci deve essere adesso al posto di quella? Di chi è il tetto? Il suo? Cosa, è facciato una pericola, è facciato, ha fatto un casino, un danno, che non viene bene a dire, cazzo. Però io che il problema è una cosa, su qua tocca fare due lavori, Che bisogna fare? Lavori, Allora, se sono a fare i lavori meglio ancora. Ma, cazzo, mi chiede non che non può dover chiudere io. Infatti. Quindi si prende l'autoscala, si sale, si butta a terra quella lì, dove mi butta a fianchi, al posto di quella mi avrei messo l'antenna mia. Non le sue il tetto. Ma io che non siamo non so chiuso io no, che magari ne metto una piccola per me, cazzo mi ha fatto gli arabi, perché molto legge e molto legge a mappo chiuso. Ma tuo padre muoveva poco, capito? Se poi con un'antenna si può mudare anche in due, non è un problema quello, assolutamente negativo, capito? Assolutamente negativo. Se lui vuole modulare, si mettete un'unica calata con un commutatore d'antenna che entra da una parte e dall'altra. Quindi un ingresso, due possibilità. Capito? Due possibilità, come c'avevo il mio Pasqua. Io c'avevo un'unica calata, però c'avevo due sezioni di quando mia figlia era nella sua camera che io non potevo trasmettere, commutavo e mi passavo l'antenna nell'altra stanza che dove c'era l'altra radio, tutto qua. Beh, se c'era lui l'antenna non ce la puoi avere tu, quindi se sto trasmettendo lui tu non puoi parlare. Però potete parlare in due, forse mi sono spiegato. È un deviatore d'antenna per consentire di parlare a lui e di parlare a te. Quando non parla lui parli tu, quando parli tu non parla lui. Se no dovete mettere due antenne e due calate. Ma tipo come ha fatto Gio Maria e Mario, così dovremmo avere. Ma comunque, se mi fa un po' come una storma non me la posso usare. E capito quando è, quando capita che è, cazzo mi uso la piccola. E lui si usa la grande. E capito? Può fare anche così, si può fare. Ma c'è un altro commutatore, cos'è? C'ero anch'io della fronte, immaginate. sappiamo se sono cosa è. Sono l'antenna grande, da lui ti fai dare il cavo di quella che è già piazzata. Esce molto bene e arriva da tutte le parti. Che problema c'è? L'importante è che sul tetto ci sia un'antenna per consentire di trasmettere come frizioni quando ne avete nulla, tutto lì. Sai che io ne ho due le antenne, per montare sul tetto. Oh, ma ne hai altre antenne? Ma ne ho un'altra, ne ho. E allora già va bene. Sola con la Enel, senza radiare, così è fatta. Vediamo cosa si può fare. Bisogna dirlo a Babbo, bisogna dirlo. Sì, bisogna dirlo, però bisogna farlo. Perché bisogna farlo. Cioè mettere un altro tipo di antenna e per far sì che esci meglio, insomma. Aspetta un secondo, vado a bere, un secondo, e poi devo Fabrizio, se lo vuoi chiacchierare. Ciao. Dimmi. No, ma già ci sei già. Noi ascoltando e chiudendo qua, ho deciso di mollare questa radio, non è possibile, ci hanno messo troppe mani, e non so nemmeno da che parte iniziare, cioè, se quello già scacciato in testa, la finisci solo di testa. Che inizierà a fare se non è cade in piedi, non ne vale la pena. Ma, vediamo, è come la terra. No, non la faccio, punto e basta. Ho richiuso tutto, ma anche con coso ho eliminato un difetto, ma è sulla cosa del tutto, non arriva l'alimentazione, non c'è niente. Non è possibile, è tutto bruciato dentro, perché ci sono bobine bruciate, quindi ripara una cosa chissà. Quante cose ci saranno, la mettere a posto, non servono, ma non si può, non si può. Ciao, ma cazzo, da chi la tocca ne tutti i canti? Sono un po' di mani, non so cosa è successo, quindi preferisco, no, anche se poi c'è una scheda, che devo ricostruire una scheda, quindi inizio a cambiare, a fare e via. Non è complicata come radio, però poi magari ripari questa scheda e magari c'è un problema da qualche altra parte, esci di testa, capito? Se invece nessuno la tocca, se nessuno tocca le cose, uno è più tranquillo, capito? Scappa, o Giulia, cazzo, ma perché devono toccare? Troppe volte ci hanno messo le mani, no, io faccio così per... Non è che sono uno che, quindi già quando qualcuno mi mette le mani, che qualcuno ha messo le mani, mi vengono i brividi, in più mi devo cervellare io, e su cose che non riesco già a fare, che devo già studiare alcune cose, guardare, e poi non fa. Ma no, ma sto scherzando. Lo Giulia, ma allora devi rifare i piccoli, se non è possibile. Non avrei preso un bel ingresso, chissà di che cosa, di retrosso, qualcosa, ci sono tutte le bobine bruciate, quindi alla fine rischi di buttarci su ore, magari ordini i componenti, fare i cambi e poi fare una cosa e ce ne sono altre, no? È quasi impossibile veramente, non so dove. È una bruciata, un sacco di cose, cioè, un sacco di cose, non poco, capito? Papà, beh, ci sta, senza di altro, ma perché altro non... Cioè, sapete che si sono messi in ciambugliano, cioè, non è neanche una persona seria che ci ha messo le mani lì dentro, perché uno non lo sa fare e non lo sa fare. No, poi ci mancano viti, si vede, sta cazzo, adesso dopo venire a chiudere il tutti i dottori è stato bloccato, c'è la terra, mamma mia, è troppo casino, non se vuole. Ho detto diverse come la mia, ci avevo messo una varia di ore, però mi è successo a me, so più o meno quello che è successo, quindi sono andato a cercare dove volevo cercare, qua non c'è nemmeno da qualche parte iniziare, capito? Non so proprio. Allora come viene il cerco fatto, vabbè, un cacciolo è tranquillo, la pazzira. No, siccome, se fosse una radio pregiata, lui, radio vecchia così, non si vuole, deciso, non si può, ci bisognerebbe sostituire tutta una scheda che non ti vista, ma costa troppo, capito? Poi quando è a posto, perché potete anche ripararla questa. Non si può, deciso, basta, chiusa, la sto finendo, non si può fare. Chiudi Fabri. Caffa, guarda, la cosa migliore, santo. Non so come cosa sono così. Io in pochi anni che ho di esperienza, però non ho mai bruciato una radio, c'è gente che si brucia, si butta la chiesa a fuglione, non so, guarda. Papà, chiudiamo tutto, non si può, papà, chiudiamo tutto, no, questo non è possibile. C'è la scheda di potenza che è completamente tutta scacciavizzata, ci sono le resistenze attaccate, fatte, non so perché l'hanno messa, se l'hanno messa ci sarà un motivo, ma non capisci il motivo perché l'hanno messa, non so, capito, quindi è inutile che lei, non si può, io ho fatto quello che potevo fare, nel limite del possibile, non vale la pena, se tutto non potrebbe valere la pena, ma diventa un problema. Aspetta che chiudo qui, riprendita. È un casino. Ero già stato verificato, un casino quello. Vabbè, io l'ho avuta qua funzionante, ti dico che funzionava perfettamente bene quella radio. Poi ce l'ha presa Sandro e l'ha portata a casa sua, ha funzionato per un po'. Poi non so che è successo, l'ho mandata su e... Non lo so. Vabbè, comunque. Gaiette. C'è anche Gianni Lopperumme in ascolto. Gianni, ci sei? Gianni, ti trovi tu. Non puoi, non mi sei? Già non so trovi, non te lo preoccupare. Ci stanno facendo delle clip. Siamo dormiti, affidati. E Giuseppe non si è sentito stasera. Meglio per Leoncino. Giuseppe. No, è drumito Leoncino. Cazzo, ma non lo ha fatto l'altro. Giuseppe Leoncino? Cazzo, quando si va a parlare l'altro. L'altro? Già. Sì, tocca. Io. Vabbè, io non lo sapevo. Pensavo che erano qua in ascolto. Uno quando era da voi, Giuseppe, altro, che problema c'è? Non c'è problema. Non ho capito anche il perché. Devo facere un questo diverso finché chiaro non si sposta. Non sta il problema. Va bene così. Certo. Cosa? Preso. Ho capito. Giulio Anto, ho capito, però va bene, se non vuole parlare va, si sposta, se non va di parlare con le persone che ci sono va bene lo stesso, non c'è problema, tutto ok. Vai Fabri, vai, reprimitela. Quindi che sto chiedendo qua non tocca niente, non si può fare, non bisogna metterci troppo mani sulla scheda, una scheda ci sono, ma devi vedere quante cose ci hanno già saldato sopra, risaldato, controlli, controcontrolli, anche una se ti metti in piacere, ma minchia, non c'è una fine, che fai il computer, quanto ci hai messo, 50 ore, cioè ti, perché tu alla fine devi smontarla tutta, controllarla, servono, questo è veramente l'apposto, piano piano, ma lì sai dove mettere le mani, capitano, perché ce l'hai già, c'è tutto, quindi ti rifugi lo schema, c'è tutto lo schema, non hai problemi. Da 757 non c'è più niente, non c'è proprio più niente, capito? Se bisogna un pezzo non c'è più nulla, niente. Come che sia spenta, troppo. fatto, non è possibile, lì qualcosa di brutto l'hanno fatto, perché non è possibile, cioè lì cosa succede, lì c'era quel difetto là, quello che dico io, quello che avevo lasciato io, doveva praticamente, doveva vedersi almeno il, quando giri si dovrebbe vedere prima o solo lì che inizia, non so, cazzo di casino, hanno fatto casino, ma veramente, perché il ti doveva apparire almeno che ha stessa mano di minchia, aspetta, ti doveva apparire il, la frequenza girando quello col vostro almeno. Sto cercando di capire, ma non vedo niente. Vabbè, Fabi, sono anch'io, non mi affrontiglia, ce l'ho io la mia, non me ne frega niente. Non mi interessa niente, le mani lì, non sono mai restituite, ma sicuramente hanno toccato qualcosa, hanno fatto qualcosa. Avanti, Grotte. Se sei rientrato di qualcosa, perché ci devi ascoltare? Niente, io mi stavo mettendo in fila nel momento in cui fosse stata aggiustata, perché lo sai che ho un matrimonio, lo stavo cercando, quindi mi stavo ascoltando per questo motivo. Se si può aggiustare, volentieri, tieni presente e ci mettiamo d'accordo per un eventuale prezzo. Non c'è problema, infatti per quello lo stai dicendo. Se fatico, Fabrizio mi stai dicendo, non ho trovato qualcosa, ti ripeto, io non lo so, l'ha portata l'altro giorno. L'ha portata l'altro giorno. Non si è messa male, quindi se ci fosse la possibilità di metterla a posto, anche cambiando magari, non so cosa hanno fatto, se c'è qualche problema sul display, non lo so, sono cose che non mi intendo, io non mi va a dire con le matte, però è sicuramente roba di scheda, qualcosa di scheda, CPU, qualcosa di PLL, non lo so. Perché c'è un difetto, tu ci intendi, quindi c'è un difetto su un altro difetto, siccome sapevo che c'era quella radio, ecco la chiusa, quella radio aveva il problema del, come si chiama, degli oscillatori, che erano da ricostruire, io avevo anche comprato tutti i componenti negli Stati Uniti, quindi dovrei avere anche i liodi per poterci lavorare, tutti i liodi di lì, quindi esclusi il transito che mi chiamerò lui. Però se una volta che tu praticamente mi hanno toccato altro, come fai? Non esci più perché non sei più quello che da capo di iniziare. Io non so, Fabri, non so. Il difetto sicuramente c'è qualcosa di bruciato, perché io non l'ho fatta così. Ripeto, è come che si è accesa, ma è come che sia spenta, non ha nessuna funzione, tutto quello che tocchi non agisce, capite? Lo so, un difetto del 440 io l'ho avuto prima di te, lo so, capite? Lo so qual è il problema. Quando ci sono i puntini è un difetto, quando invece non ci sono i puntini, che non ci sono manco i numeri, è un altro. Perché con i puntini è risolvibile subito, non è un problema. Quando giri il UFO appare la frequenza, quasi all'UFO non appare niente, quindi è sicuramente qualcosa di rotto, di bruciato, da sostituire. Ed è sulla parte della scheda CPU, altre schede non ce ne sono, ecco la frequenzina tra quella, poi tutto il resto viene rotto, una volta che appare la frequenza, allora si può mettere le mani dove tu sapevi, però prima bisogna far apparire la frequenza. No, uno di questi giorni che faccio la termine, la accendiamo, la chiudo, la sbaglio, posso togliere il copertiere e fare due controlli veloce, e la tira, perché se fai con io, come la prima cosa di provarci, però se è come così che sta dicendo, chissà che fine hanno fatto, cioè se io magari è solo anche quando è discollegato vedo subito, però se mi chiedi ci vuole capire come l'hanno fatto, non devo vedere accedere in casa. Ma lui te l'ho detto, si riferisce, quindi te ne qua, pomeriggio, mi chiami, tanto io sono sempre a casa, non c'è problema. Non c'è problema, te la accendo, te la metto sul banco perché non è neanche attaccata lì per terra, non c'ho posto, dunque te la accendo e dai un'occhiata qua, se è fattibile va bene, se no la prendo, la attacco e si tiene come pizza di cambio, non è un problema, qualcosa di interessante c'è sempre da tenere, capito? Va bene, Robe. Eccolo, scusate che sto mandando un messaggio. Domani sono a Cagliari, Cosa devi fare? Hai preso tutto. C'è bisogno di andare a Cagliari. Devo andare a recuperare una cosa, fare una piccola visita e dopodiché risalgo in serata. Quindi preparatevi perché vi voglio sentire croccanti già da Macomer. Da Macomer? Per Macomer manco ci provo. Ricordo da Macomer, sì, iniziamo a prendervi un po' prima di Macomer, dai. Guarda, io con questa, con la radio così, 50 watt con 140 con Gigi ci siamo sentiti che era inoltrato nella zona di Nuoro, quindi Nuoro ti parlo per Macomare, era inoltrato nella zona di Nuoro e mi pare che fosse Bolottana, proprio dentro a Bolottana, e gli arrivava una fucilata, e mi arrivava a sentire una bambina fatta di notte. Così, come hai detto tu, dovresti iniziare a sentirmi già dalla zona prima di lì, tra Basanta, dopo Basanta e Oristano praticamente. Domani, guardate, dovrei rientrare verso le 6-7, dai, dovrei essere in quella zona lì. Non c'è problema. A chiamare io, se non c'è QRM ti sento, se c'è molto QRM è un casino, capito? È un casino. Bombolo non riprende, capito? Fabri, che te devo dire? Prendi un po' fuori, c'è, si può gestionare uno peppino, non voglio levare l'accendo e ripeto non ho fatto qua dentro l'accendo, la controllo per vedere quale se mi dici così è quasi impossibile che ti arrivano a vittarmi la vita cinque. Ti capisco, però io non ho toccato niente, ti ripeto, me l'avevo data perché me l'aveva chiesta, me l'aveva anche pagata tra l'altro e adesso me l'ha regalata praticamente, ma te li dico, intanto me l'ho tolto qui, mi pensavo magari di ripararla eccetera, invece mi ha tolto qui, però me l'ha restituita, il dispositivo è spento, capito? È acceso ma è come che non ci sia, è tipo un reset, capito? Cioè tipo un reset, quindi sicuramente non so cosa hanno fatto e quindi l'ho messa lì da una parte perché ho le mie, poi era arrivata anche quella di Pino, quindi stavo usando quella di Pino per vedere se era tutto a posto, poi quando l'ho tolta c'era sopra l'850, infatti l'ho lontano, adesso l'ho messo tutto a posto, non aggiungare tira e muova, questa è la dove non funziona, l'ho messa lì per terra, servono le luci, se si può riparare si ripara, se non si può riparare rimane lì, no, non mi fa niente, fa pazienza. Io ho capito, io ho capito, andare a operarmi quei due o tre mirini che mi interessano, e dopodiché lo chiudo, quindi non ho mai fatto nessuna riparazione, perciò per me tabù, tabù, ti ripeto, se è fattibile, va bene, se non è fattibile, mi interra dietro la porta, e l'interra dietro la porta rimane, non l'ho avuto neanche qua davanti, perché tutte le radio che ho sono funzionanti, quindi no, non è voglio di tabù, tutto qua. Antonio Bombolo, parlato in assemblea regionale di questo, nelle varie fare eccezione di competenza, quindi è giusto che sia così, però se c'è una preparazione superiore a quella che loro pensano di fottere, il candidato passa, quindi massima attenzione che non ci sia nuovamente tutto quel baravano che hanno messo l'altra volta, perché diversamente è proprio un vero disastro, un vero casino. No, speriamo di no, ve lo auguro per voi, che sia una cosa definitiva questa volta, che abbiamo capito che c'è necessità di fare attività amatoriale, non di essere preparati per la DSL che non viene a tutti manco dalle balle, a prescindere da quelli che hanno una preparazione anche per quello, no? A me personalmente manco non mi interessa. Mi interessa più capire e conoscere tutto il mondo dell'avventistico che sarebbe sempre le stronzate. Fabri, chiuso è questa radio, cazzo la mia dicita per venire. Che cosa? Che non ho trovato mai un programma di esame così generico come può essere quello del radioamatore. È talmente ampio la cosa che ti possono fare qualsiasi tipo di domanda. Se questo è sbagliato, perché ci sarebbe da appellarsi al TAR, perché realmente ci dovrebbe essere un programma di esame molto preciso, cosa che lì non c'è, è molto generico e di conseguenza non vai da nessuna parte, capito? È un po' così. Io invece avrei fatto fare una prova pratica di modulazione e non una prova di trasmissione e non cose teoriche che poi lasciano il tempo che trovano, capito? Sono d'accordo con te. No, se fanno la prova di modulazione per lo spagliolo prima in assoluto. Ma soprattutto sì, ho utilizzato malapropismo, non modulazione di trasmissione. Poi io avrei fatto sì che ogni persona che superava l'esame dovesse fare almeno un anno di praticantato seguito da una sezione ARI. Allora sarebbe stata una cosa seria, però così è fine a se stesso. Ad esempio, le stesse frequenze non si sanno realmente dove possono stare i generatori, dove non possono stare, ogni anno le cambiano, ci sono delle variazioni. Chi non ha contatto con le sezioni ARI è un po' così, capito? Non so. Guarda che quando l'ho presa io la patente, ti davano la licenza provvisoria per 3 mesi, dove tu se volevi parlare, perché da solo non potevi parlare, capito? Non era ammesso l'ingresso in QSO con la licenza provvisoria. E quindi era affiancato da un IS0, con più di 10 anni di patente, come la macchina, come il Federosa, dove lui apriva il QSO, quindi ci sono io che apro il QSO, quindi S0 VFB, secondo operatore, volo 0 VFT, per dire, lasciano il microfono con cui io sono qua presente per qualsiasi cosa. Si lavorava a questi livelli, con lui parlava, la chiusura la dovevo sempre fare io, capito? Quindi l'operatore più anziano, adesso questo non succede, perché non succede? Perché le patenti sono state unificate, quindi esiste una licenza e una patente unica, perché prima erano due, quella speciale e quella ordinaria, con la quale il ministero ti dava la licenza provvisoria, dove tu dovevi fare praticamente il secondo operatore per 3 mesi, dopo 3 mesi ti arrivava il nominativo e la licenza definitiva. Adesso non succede più, quindi siamo tutti al posto del bravo. Ma sai qual è il problema? Che realmente lo Stato dai radioamatori non guadagna niente ed è esclusivamente un disturbo. È un disturbo perché? Perché al fine di poterli controllare l'ESCOPO deve muovere comunque dei mezzi delle persone che hanno i loro costi. Al contrario invece dei controlli che fanno di solito alle radio private, comunque alle emittenti pubbliche private, che diciamo che versano un obolo decisamente superiore a quello che può versare un radioamatore o un CB. Quindi è normale che loro giocano sul fatto che meno gente c'è, meno rotture di scatole ci sono, meno le frequenze vengono impegnate e allo stesso tempo disturbi ci sono, perché per armoniche comunque vai a disturbare qualcosa di pubblico o comunque di privato che paga. Sono d'accordo con te. Sì, vabbè, ma quello sempre più controllato ci invito perché il cibo deve avere quel limite e basta, l'allenatore che trova i limiti non ne ha, perciò quello ti controllo, quello che non ha controllati che puoi tenere gli amplificati, puoi tenere tutta la sezione HF da 0 a 30, 2 a 1, puoi fare quello che ti piace, quindi cosa ti controllano? È un controsenso. Ti sprechi un tempo per controllare un allenatore, per usare i contesti di un allenatore. I contesti, oramai gli amplificatori prima erano sino a 500 watt, adesso sono sino a 1 kW, quindi cosa viene a tutti? Puoi detenere tutto, è chiaro che per la 27 il discorso non cambia, come è già stato detto tantissime volte, anche per allenatori. Nella 27 è concesso il baracchino omologato, il livello della potenza, 5 watt, 40 canali. Però non lo fanno il contrario, cioè cosa, quando vieni cosa fai? Ma fine è qua, allora cosa vuoi, cioè cosa mi stai contattando a me? Quindi è diverso, l'attenzione d'uso dell'allevatore, e per i cibi uso l'attenzione molto poco. Roger, che poi ti ripeto, se vai a vedere, loro sono molto fiscali, se vai a vedere l'esenzione all'esame è davvero ridicola, perché per evitare di fare l'esame basta avere delle lauree o dei diplomi che obiettivamente non ti fanno certo un allenatore. Non è detto che tu sappia modulare solamente perché hai una laurea o un diploma di un certo tipo. Non solo, cioè per acquisire sempre la licenza in modo facilitato, cioè in modo automatico, la possibilità di acquisire un attestato che si chiama DTMSS, se non sbaglio, che ti abilita all'utilizzo di radio particolari all'interno di navi da crociera o comunque navi da diporto. Quello lì si acquisisce molto facilmente e di conseguenza poi ti possono dare la patente da radioamatore. Questo qua è perché è parificato. Questo è legale, attenzione, non sto dicendo una cosa che non si sa, tant'è vero che se lo cerchi su internet. È che su questi di questi corsi non ne fanno facilmente, però ti fa capire l'incongruenza che c'è fra l'essere troppo fiscale e dopodiché darti la patente così gratis solo perché magari hai fatto uno di questi corsi. No. Non è così. Allora, l'esonero non ce l'ha neanche un ingegnere elettronico. Attento, un laureato in ingegneria elettronica non c'è l'esonero. L'esonero è consentito per tutte quelle persone che hanno il diploma industriale, quindi alla scuola industriale di perito elettronico, capito? O perito elettrotecnico, che sono due cose diverse ma si abbinano. Diploma. Nessun guai c'è con gli ingegneri elettronici, elettromagnetici, ho trovato io nell'arco del giro di esami, anche nonostante io avessi già la patente recente, andavo tutte le volte, c'era la sessione, andavo con amici eccetera, quando ne ho trovato? Un bel. Il secondo esonero è per quelli che hanno il titolo di radio telegrafista navale navi superiore a 250.000 tonnellate, oppure aver fatto in marina, quindi il congedo della marina militare come capo, quindi capo di seconda classe radio telegrafista. Questi sono esoneri ancora tutt'oggi in vigore, non ci sono altri esoneri, capito? Né di scuola INAPI, né di attestati, né di corsi eseguiti in elettronica, non c'è niente da fare, nulla, perché ci hanno tentato tutti. Vittorio che è Vittorio, 50 anni che lavora nel campo dell'elettronica e ha l'attestato della scuola INAPI come elettrotecnico, non è servito a niente, è andato l'esame. L'unico che è andato a dare esami che però era già esonerato, ma li ha voluti dare lo stesso, è Massimiliano. Capito? Perché Massimiliano è un perito elettronico. Capito? Però è andato e gli ha dati gli esami. Come? Sono andato io la prima volta e non do più vero URT, sono andato gli adatti. Però avevo già l'esonero. Capito? Perché avevo fatto Marina, mi sono congelato in Marina, quindi ce l'ho nel congedo come caporale di seconda classe radiotelegrafista, perché ho fatto, sono stato imbarcato su Nettuno Veneto ed ero radiotelegrafista. Quindi il mio congedo è stato praticamente scritto e verificato con tanto di Aosta dalla capitaneria di Porto Torres e dalla capitaneria della Spezia, compreso di Aosta della Maddalena, e sono stato esonerato come secondo esame, come primo esame ero fatto. Ma comunque c'è un altro titolo che ti esonera, che è quello di cui ti stavo parlando, il titolo DTMSS, che è una patente a seguito di un corso e di un esame che si fa, che ti abilita o al corso di GOC o al corso di ROC, che sono, che ti abilitano all'utilizzo di apparecchiature radio, di radiotrasmissione all'interno delle radio e delle navi, navi da diporto e navi da crociera. Quello ti abilita a diventare anche radioamatore in automatico. Mi fico perché non lo so, se è una cosa nuova, non lo so. Io so che gli esoneri sono questi, ancora in vigore e basta. E basta perché quando io abitavo a Porto Torres, attaccato a casa di mia madre, che Sandro conosce molto bene, forse anche Gianni del Turrum, non lo so, qualcuno che sta molto a Porto Torres, abitava Giuseppe Caruccio. Giuseppe era comandante, primo ufficiale di una grandissima petroliera, primo ufficiale. Quando ha sbarcato è andato come primo ufficiale sempre, quindi comandava Porto Cervo Marina, e a Porto Cervo Marina c'era la stazione di radio, la stazione radio può essere la radio costiera, così, che chiamava tutte le barche eccetera. Una volta mi ricordo, perché io portavo i medicinali prima di entrare dove sono sceso a Porto Cervo Marina a portare le medicine della farmacia che c'è, che è aperta solo per il destino. L'ho trovato e mi ha detto che era andata la polizia postale con l'escoradio e non so quanto aveva messo in multa, perché gli operatori che trasmettevano lì non erano in possesso di documentazione, quindi di licenza di patente radioamatore, quindi non potevano operare, compreso lui. Lui era primo ufficiale, quindi comandante, primo ufficiale di una grandissima petroliera per anni. Dopodiché è diventato comandante di Porto Cervo Marina, diplomato nautico, capitani, quindi penso che di radio e di cose ne abbia visto. Sono di lungo corso la diplomata nautico, ma questa cosa è uscita da poco, perché in breve ti abilita questa strumentazione, che più che altro è una strumentazione elettronica, dove a seguito di un corso di una settimana, quindi è una cosa ridicola, ed è per quello che è facile da apprendere, cioè conviene fare quello per poi farsi abilitare come radioamatore. Il problema è che tu devi acquisire questo corso, fare la domanda a Roma per la conversione, che te la danno per forza di cose, però questo corso non si, lo devi fare, cioè non è da tutte le parti che lo fanno. Ad esempio in Sardegna ne hanno fatto uno esattamente 5-6 anni fa, ad Alghero, tuttora lo fanno alla Maddalena, se lo fanno pagare 3.000 euro, quindi di perché sono gli unici abilitati a poterlo fare, quindi di conseguenza non conviene assolutamente. Però se vai nella penisola li fanno, costano molto di meno e c'è la possibilità, c'è questa assolutamente tangibile e ferma possibilità di poter poi fare la conversione. Io mi sono informato anche a Cagliari, assolutamente sì, lo fanno, però non fanno il corso. Cioè a Cagliari mi hanno detto lì al ministero che non c'è problema, gli devo fornire l'attestato del corso, però corso qua in Sardegna non ne fanno. Tutto sempre il solito gioco di Carruzzo. mi ricordo che ho posizionato la Maddalena, la scuola dei sottufficiali, c'era un corso lì all'arsenale dedicato proprio a questi imbarcati che quindi avevano uso e utilizzo di due apparecchiature UHF. Ben venga, io non rispetto 3.000 euro per fare un corso o per essere esonerato, preferisco studiare 3.000 euro a tenere in tasca. Su questo non ci piove. Ma Bombonino che fine ha fatto? Antonio, Parigue. Così è Fabì, attira anche 2-3.000 euro per fare questo corso e poi per fare che cosa? Non conviene studiare e tenersi 3.000 euro in tasca. Grazie. fatta, come noi ci siamo qua anche una decima, in realtà ce n'è abbastanza, non è quello, ma sui ponti, i ponti servono per comunicare da una città all'altra e basta, non è che servono così per fare attività amatoriale. La vera attività amatoriale, la rimatoria la fanno in 10, 15, 20, 40 metri, in 80 metri, in 160 metri, in 6 mega, 50 mega, capito? Quindi se tu vai è tutto pieno, questi animatori che stanno chiacchierando, stanno facendo discorsi di ogni tipo, se tu vai a 7080 tutti i giorni si parla di antenne, si parla di radio, di modifiche di quello e di quell'altro, ce n'è, tu ce n'è. Ad esempio quanti siete? Se siamo in Sassari, se siamo in Sassari adesso non so, io non so, sono una trentina, ma non c'è solo la sezione Sassa, c'è la sezione di Porto Torres, c'è la sezione di Alghero, ce ne sono tante sezioni. La sezione Ari ce n'è una per ogni città, cioè non fa capoluogo Sassari come provincia, che era, come si dice, che mette nella condizione di avere una sola sezione, cioè ogni città, quindi Alghero ne ha una, Porto Torres ne ha una. Esatto, Olbia c'è la sua, ogni città c'è la sua sezione Ari, se i rematori ritengono di averla, dipende, poi ci sono magari pochi rematori dove non è riferimento alla sezione e lavorano con la sezione più vicina. Io sono di Sassari e appartengo alla sezione di Sassari, Porto Torres c'è la sezione di Porto Torres, però non è detto che io di Sassari mi debba scrivere per forza Sassari. Tu fai la richiesta e la dice che ti devi iscrivere nella sezione di appartenenza che è Sassari. Io posso anche dire a me, Sassari non mi interessa perché c'è Antonio che non mi va e quindi mi iscrivo in un'altra sezione. Allora Sassari ti deve lasciare nulla volta perché tu debba andare a iscriverti a Porto Torres. Siete un numero di 30 persone su 160.000 abitanti che siamo a Sassari, secondo me è un po' pochini come radiatore, poi magari ci sono tanti di quei patentati che non si sono iscritti o che non sono iscritti a una sezione Ari, come ad esempio Massimiliano, come ho perso di capire, non è iscritto alla sezione Ari, e come altri ce ne saranno che magari fanno lo stesso attività radiatoriale e che non sono per forza iscritti in una sezione Ari. Come me che io quest'anno non ho rinnovato, non mi interessa, non rinnovo, non me ne frutti nulla perché non sono presente alle riunioni, non mi interessa per avere la radio di vita tutti i mesi che mi ho una cassetta piena, non ricordo neanche, l'ho ancora sfogliata, della circolazione dell'antenna non me ne frega niente perché la mia antenna è assicurata dal condominio, quindi non ho nessun problema. Pertanto quest'anno io non ho rinnovato, ho già fatto la disdetta, capito? Rimango in nel Corano, così chiamato, come socio ancora tutto quest'anno, nonostante non abbia rinnovato per legge, ma dal prossimo anno mi cancellerò dal Corano, quindi io praticamente non sono più socio dell'associazione degli amatori italiani, a prescindere dalla sezione non sono più socio da quest'anno, però rimango iscritto nel Corano, quindi posso partecipare alle riunioni, non ho diritto di voto, non ho diritto di parola, ma una volta che poi l'associazione proprio nazionale degli amatori italiani ti cancella dal Corano, quindi ti cancella dalla sua associazione di appartenenza, tu praticamente non ti puoi più iscrivere da nessuna parte. Già parlando di Corano sembrate musulmani, si chiama Corano? Sì, così lo chiamano, io ho la pergamena mandata dall'associazione degli autori italiani, dove certifica appunto che si è iscritto nel Corano come non nativo di server di FB. Scusate un attimino, riprendi Fabri, io sono un attimino in ascolto che sto facendo una cosa, la riprendo subito. fatte. Una volta solo all'autogrill per farmi un panino, per mangiarci il panino, e poi siamo ripartiti e c'era un carico di maiali tutti fisi, no? E già che ho visitato, gli ho fatto, hanno gomitato tutti e quattro, tutti quanti, e mia moglie mi ti hanno conosciuto. Sì, diciamo, povere bestie, in tante erano imbarcato uno col freno imbarcato. Ho baciato un autocarro con un rimorchio, un autocarro, siamo di bovini, di... E quelli che arrivano vivi dalla Spagna e li macinano il paese, qua li fanno passare per sardi, ne vogliamo parlare, li ho visti io, stavo andando in capitaneria a scaricare l'acqua e stavo aspettando e mi ha preso il cancello. È passato questo camion spagnolo, tutto tanto carico di buchi. Quando travagliamo andando a carne, ti faccio vedere punte, arriviamo già macellati, però era una bruciata, come si era a buco usato, no? E oggi brava, parlava. Buono, senza nulla che dire, ma se non dici una cosa fa un'altra, oppure dopo io faccio, ma so quanto pensiamo, quanto i camion che partono, che io quando sono lì li vedo, se portano male carne, sia macellata che anche da macellare. E da poi dopo ora nella regione Ronca, tu sei l'ore della Francia, io mi ricordo il periodo, ti ricordi che era stata la mucca fatta, quel periodo lì che si è fatto quel casino che dopo la famiglia e la Francia ha avuto un anno questo vitellone, vitellone francese che si vendeva, anche io all'epoca lo potevamo, no? Era buono, proprio da fare macellai, però non era francese, non le volevano, con stato il certificato, con la... era tipo un pedigree, sapevo, no? Una scheda sanitaria dove lì c'era scritto la nascita, l'allevamento, la macellazione, insomma riportava praticamente tutta la sua storia di questo bambino lì. Il francese era, lo volevano perché era uno dei più buoni che c'era, Pitellone. Mi è sembrato poco fa che avevo sentito qualcuno che cercava di sovrammondare, chi aveva? Non vuole entrare. Sì, mi sa che sta roba magnemmo. Sì, perché se è sin che è buona non c'è niente da dire, però non la far passare per sarda. Invece era uno sciada con la mia voce idrica e via. Gianni, io ti saluto, ti auguro un buon 194, là, e ci sentiamo tutte le prossime. Ciao Gianluca, un buon 194 anche a te. E ci risentiamo tutte le prossime. Correggi la me da parte mia. Ciao, ciao, buonanotte a tutte e due. Grazie. Ma dormi tutti? Quasi. Ti abbiamo chiamato, non hai risposto. Insomma, una lì. Ciao, ciao. Ciao, ciao, saluta me Gianluca. Rientra. Da capito Monreale, per dopo che ti rilassate, no? E caricare i cittadini. Anche come ti erano le macellate. Oh cazzo, sai che ne vedi chi? Perché siete in un'idea? Sì, 30 di ricchi. Ciao. Mi hanno già le mobili da nocca. No, è la prima impresa. E non te, tradisco. Ho preso un cuore con un panno, un cuscetto in mano. Un panno, no? No, via la tua. Ma come dire, forse? No, ma... E allora va via. A uno a uno di bugia. E lì la fava in terra. Attenzione con bugia. Un assassino. Fatto male, ma dopo quando gli senti pesare gli anni le pare di creature. Lo so, se mi dà mattatoio come li ammazza, io li porto al mattatoio, no? Li metto un tipo, visto quella per far girare, per guardare le cartoline, ce l'hanno in grande, li appendono lì, per le zampe, li sgozzano e ancora muovendosi li lasciano scendere il sangue così. Mi ha fatto qualcuno che vuole entrare, perché forse mi è fermato di sentire pure quando stavo volando tutta. Ti ha salutato Leoncino, sì c'è Grotte avanti. Antonio. Ciao Luca. Io sono passato dal canale 10, ho fatto quel segreto qua. Ciao Gianni. Riprendi Gianluca. Ciao Antonio, ciao Leoncino, sei svegliato. Buon'anima. Ma sento gli segnali di Antonio tremolante. Gianni, come te li senti? Tutta frusce e tremante. Come lo senti tu? Deve essere stazionario che te la pioggia. Ciao, è la cosa, la Ringo sta creando problemi, aspetta, guarda che cosa si è passato un attimino. Così, lascia vedere, guarda così com'è. Ha migliorato un pochettino, è più stabile il segnale. Ma se va bene, tu ruba con la pesca, quindi mi sembra che non sia anche la pioggia. Negativo, guarda, tanto che faccia così e vedi che posso andare a tutta canna senza nessun problema. Ora, ora, ora. No, questo prima nel precedente passaggio, questo ultimo filo che ti è piaciuto. Ti è sentito un pochettino troppo disturbato. Sì, così sono disturbato. Senta ancora, fallo un po' di sviluppo, perché ma poi se toccano l'accordatore. No, negativo, così sono liscio, sono quattro puliti. Beh, lui così potrebbe anche andare bene, per me sono tanti. Ti ascolto bene, avanti già. Ia. Kappa. Ciao Grotte, mi hai sentito per la seconda volta. Ma ciao già, il problema di questa Ringo lo sai? Non passo, non passo, non passo, non passo. Del capo. Non passo, non passo, non passo, non passo. Mettiamo un funghetto di silicone che fa l'ascamo. E lì bisogna... Il polo caldo e il polo freddo che ti crea stazionare Gianluca, vita. Ho capito. Avanti, ma massimo due dose. Ciao Gianluca, sei invito. Stanno schiacciando, volando Antonio. è bellissimo. Io però ancora non ho capito che c'è altro problema. Mi stava via Lubascia, Lubascia, che ha mollato quando... Lubascia, Lubascia, ho tempo. No, nominare a Gianni che sta facendo le uscite, ma non la gruppa di Silvio e Ombre, ma se lo chiamano non risponde, sicuramente non c'è. Tutto lì. Ma sappiamo che è da Tattari? Qui sono qui, cazzo. E Dolcino ti ha salutato, è entrato, ha salutato e si è andato a lei. Allora, buonanotte a tutti, non so tanto. Va bene. Però stavo lì per il discorso, già, dovevo fare a me fa vedere. Ah, va, va, di autostrada. Di Gabri. Digiti, lo stesso quello che mi ha fatto male, che mi ha fatto, che non avevo mai visto, insomma, ammazzare il toro, un toro stavano ammazzando. Allora lui era vivo, hanno aperto queste celle di ferro, d'acciaio, no? E lui passava in questo corridoio stretto stretto. Ma man mano che passavano chiudevano il petto indietro, no? Per non far tornare indietro. E dopo lo stringevano, lo stiravano e saravano anche questa grande passata sotto, praticamente questo crisi, questa griglia grande, non che c'era, con l'acqua sotto. E dopo l'hanno chiuso di dietro, era più sicuramente un po', ha stato più dolce, secondo me viene abitato per amore. Ha stato romanticato, da Danazzi, da Cusuccino, un ricapitura, un chiodo, un diavolo, ed è rimasto un vecchio. Allora un po' consigliato di sofficiare il bianco di Davide. Quando era ancora morto, gliene ha sparato un altro, è caduto. È caduto, mentre cadeva hanno aperto le fianco, ci sono aperte le sponde, no? Di queste vite, ed era un montacariche, ma grosso, una catena grossa, l'hanno attaccata a lunghi appunto, no? Praticamente nella caviglia, nella gamba, l'hanno tirato, non tirato, non tirato, non tirato, non tirato, l'hanno impunto, lui ha deciso di stanco, un idrante. E invece ha avuto donna quando aveva ammazzato una giuicciumbe, aveva un anello in terra, ribigliavano i parigorra, tiravano il lucarnao fino a toccare il muso a terra, quando era attaccato il bruzzo a terra, riparavano i manomu vicino, riparavano e ci fanno brum in terra. Non è, guarda, comunque non è, vabbè, loro si saranno abituati, avanti a tutto. Quando si è ritirato, no, io prima li portavo vivi e poi li ritiravo, prima andavo col camion e li portavo vivi, da voi li ritiravo molti con la sugare. E Massimo, la tua Massimiliano? Non c'era Massimiliano, era cosa, era Fabrizio Chirigatto. Ah, ma la confonda Fabrizio con Massimiliano, ma non le modulazioni, proprio il nome confondo. Ho capito. E io sono capo i denti. Perché sono fare il lungo stesso. Sono capo di programma Italia 1, questo di corso. Aspetta che te lo dico praticamente la cosa. Quello che fa così è prendere. Si chiama, fanno vedere una volta la settimana, questo qua. Ma non vedo tutto di fatica di estremità. Vive per esempio dopo l'Ariadne, che sopravvive, vive in Amazzonia e ti va a vedere come si deriva a Macapà, che sta a metà. Ho capito. Cappagatto. Quindi sono cose estremamente. Diciamo, cose di sopravvivenza sono. Ma che se ti mangia pure la roba cruda? Mamma mia, non c'è un cazzo di più vecchia, il cazzo. Era meglio della media di un deserto, l'hanno mandato. Sopravvivo in pari della maniera, mamma mia, questo, ma non voglio io fare il cazzo. Schifo. Vabbè, ti devo salutare da che, se no qua si fa tardi. Saluto a tutti, anche gli ascoltoni, Fabrizio, anche a Grove se c'è ancora, e tutti gli altri. Ci sentiamo, buonanotte, Gianluca, mi ha fatto piacere fare questo. alle prossime, ciao ciao. E io altrettanto, buonanotte, grazie anche a te. Aspettiamo più tardi domani, dai. Ok, buonanotte a tutti, a fine ascolto. Grazie per il tuo canale. Buonanotte e buon tutto per domani. Ciao, ciao. Ciao Fabrizio, andate a tutti.